È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Luca, cosa ti è successo? Caro Parenzo, eccoci qui. Con che bella sigletta che hai messo, direttorissimo. E con Luca Cordero di Montezemolo, lanciato. Persino da Marchionne oggi durante il meeting di CL a Rimini. Sai Marchionne cosa ha detto? Non so se hai seguito bene le notizie di giornata. Ho seguito un po' attraversando il Granducato di Toscana, ho seguito qualcosa in macchina perché appoggerei Montezemolo in politica, nonostante il mio consiglio di non farlo, avrebbe personalmente il mio appoggio. È una brava persona, ha la capacità di crearsi intorno una grandissima squadra in grado di vincere e l'Italia ha bisogno anche di questo. Dunque appoggerei Montezemolo in politica e vabbè. Clamoroso. Clamoroso adesso, insomma. Però è una sorta di endorsement, come dire, endorsement. Lo stesso Marchionne, tra l'altro, oggi ha detto che è sbagliato aumentare l'IVA perché questo deprimerebbe il mercato delle auto. Diciamo che l'ha detto un po' pro domo sua. Ah, sì, pro domo sua. Un consiglio disinteressato. Altre notizie di giornata: forse aumenta, speriamo che venga tolta. Lo sai che questa è la mia opinione. La soglia dei 90.000 euro di reddito per il cosiddetto contributo di solidarietà, che io chiamo molto semplicemente rapina. Sì, anch'io. Questo è giusto, quindi direi che c'è la Camusso che dice una cosa nuova, cioè dire che CISL e UIL sono troppo vicini al governo ed è andata a protestare sotto il Parlamento. E poi direi anche che c'è Alfano, quello che sembra essere il segretario del PDL. Sembra essere. E direi Alfano nel senso dell'ovvio, perché dice che bisogna assicurare una pensione ai giovani. Ma questa è una cosa importante, effettivamente. Però mi sembra un po' un bel proposito. Bravo, sì, però dice bisogna, da un certo punto di vista, garantire le pensioni che ci sono adesso e garantire pure quelle ai giovani. Beh, insomma, tra le due cose forse c'è qualche contrasto. Ha detto che bisogna fare le riforme anche. La frase che quello sempre, naturalmente, è una frase noi che si ripete. Al futuro bisogna fare sempre. E poi ancora due deputati del PDL, Mazzocchi e La Boccetta, vogliono un altro condono, Mazzocchi. Un condono tombale, uno di quei condoni Mazzocchi. Che faceva Formica, Berlusconi. Ma Mazzocchi parla solo d'agosto, Mazzocchi, o anche durante tutto l'anno? No, durante tutto l'anno, assolutamente. Ah, ecco. Assolutamente. Sentiamo Marchionne sull'IVA e la patrimoniale, perché poi c'è questa cosa che i ricchi, non solo in Italia, anche in Francia, dappertutto, dicono: beh, tassateci un po' di più. Io sono contrarissimo a questa cosa. Basta, le tasse già ci sono, non super prelievi sui ricchi. Che vuol dire super prelievi? I ricchi già pagano le tasse, quando le pagano, naturalmente. Quando le pagano, ecco. L'IVA e la patrimoniale, Marchionne. L'IVA può danneggiare le imprese, l'aumento dell'IVA? Ma danneggerà i consumi. Sulla patrimoniale? La cosa importante è scegliere una cosa e poi farla. Come arrivare a quel saldo necessario per convincere gli altri partner europei è una cosa che lascio al governo da fare, non è il mestiere mio. Ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, cosa ti è successo? Bene, sempre dal meeting di Rimini, il signor Lupi. Lo sai, no? Cielino, deputato del PD, vicepresidente della Camera, eccetera. Se la piglia con Famiglia Cristiana, questo ieri sera, e addirittura Famiglia Cristiana che aveva sostenuto che la manovra finanziaria era una manovra da serial killer. Ora, io posso dire solo una cosa. Famiglia Cristiana, per carità, è un giornale che si rivolge a tutti i cattolici, un giornale popolare, eccetera, eccetera. Non ce l'ha un po' troppo col governo, così? Non c'ha un po' una fissa, Famiglia Cristiana? Che poi... rappresenta il cattolicesimo popolare. Beh, rappresenta adesso, insomma, rappresenta un pezzo del cattolicesimo popolare. Non so quale pezzo. Famiglia Cristiana è peggio del fatto, Lupi. Famiglia Cristiana oggi ha scritto che con la manovra avete assestato alla famiglia colpi da serial killer. Come replica rapidamente? Beh, questo non è assolutamente vero, anche se Famiglia Cristiana ogni tanto si comporta peggio del fatto. Luca, Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Luca, Luca, Luca. Ma chi è con questa pernacchia? Sei tu? Sei tu, Parenzo? No, non mi permetterei mai. E chi è? Ah, è Bossi, è sempre Bossi. Ministro, ricordiamo che è il ministro per le riforme. Bossi, è sempre Bossi che si intromette con queste pernacchie. È una cosa pazzesca. Chiamiamola il ministro. Il ministro. È il ministro. Ministro Bossi, sì, vabbè, ministro. Ministro, no, diciamo perché, anche se, che è ministro. Perché secondo te, perché secondo te lavora come ministro Bossi? Beh, ministro, cioè, diciamo, dimmi la verità. Che attività ha il dicastero di Bossi? Abbi pazienza. Parenzo, dimmelo tu, che attività? Quale attività? Vuoi che ti risponda? Dimmelo. No, beh, tu no, però non ti abbassare così anche tu, non ti abbassare. No, io uso un linguaggio ministeriale. Va bene, allora, la famosa questione dei capitali scudati, dei capitali scudati. Bersani, vabbè. Vabbè, perché tu sei contro la tassazione dei ladri. No, ma insisti su questa storia. Ma l'abbiamo già ascoltato, Bersani, non lo voglio più sentire. Peraltro, peraltro propone un'altra cosa. Perché si propongono sempre tasse? Sempre tasse si propongono! Sempre, non dico solo dalla sinistra, che pure, insomma, fa il mestiere suo, ma anche dall'altra parte. Bersani, per esempio, dice imposta sui grandi patrimoni immobiliari. Poi la questione dell'ICI della Chiesa. Sentiamo questa cosa sui grandi patrimoni immobiliari. Sempre tasse, non idee nuove, no, tasse. Introduciamo il tema di un'imposta ordinaria sui grandi valori immobiliari, su criteri progressivi. Quando parliamo di grandi patrimoni immobiliari parliamo di soglie rilevanti e quindi noi sicuramente mettiamo a riparo fasce ampie e giuste di esenzione. E poi c'è questa guerra, questa lotta tra Bersani e Montezemolo, perché Montezemolo ha semplicemente detto che non capisce le proposte del Partito Democratico, non sa quali siano, che poi dice sempre di no, e Bersani si è arrabbiato come una biscia. Si fanno largo bombardando. Senti. Noi allargheremo il nostro appello, la nostra proposta a forze di sinistra, di centrosinistra e di centro. Sono disposti, apriamo il tavolo. Vogliono solo farsi largo bombardando a destra e a sinistra? Non credo che sia utile al paese. Va bene, poi nel centrodestra ci sono questi frondisti, cosiddetti frondisti, che si dovrebbero incontrare con gli scaglioliani. Questi vanno sostenuti. I mal di pancisti. Signor Lehner, buonasera. Sera. Lei che appartiene a maldipancisti, frondisti, pur non essendo nel cioè non so se sia ancora iscritto al PDL lei, perché fa parte. Sono ancora iscritto al PDL. Anche se fa parte di PT, no? Di, sì, che non è Poste Telegrafi. Gruppo parlamentare. Sì, che non è Poste Telegrafi, ma come territorio, no? Come sa bene anche Parenzo. Che ecco. Cos'è Parenzo? Scusami, dillo tu. Popolo e territorio, popolo. Una delle formazioni che segneranno la storia della Seconda Repubblica. Popolo e territorio. E territorio. Senta, signor Lehner, lei non appartiene appartiene a maldipancisti, frondisti o l'altra qual è adesso? Scaglioliani. No, a me stesso appartengo. Però se dovesse scegliere, è uno di quelli che ha i mal di pancia sulla manovra economica, cioè frondista oppure no? No, cioè sulla manovra, che è un'iniziativa dovuta e dolorosa, sì. Allora mi pare che ci sia poco da avere mal di pancia. Beh, come è poco da avere mal di pancia? No, è poco da avere mal di pancia, bisogna farla bene. Ho capito, quello, quello certo. Diciamo, è troppo facile dire io sono più liberale di te, allora questo sì, questo no. Dunque lei non li sopporta questi mal di pancisti, no, questi frondisti? Assolutamente. Sopporto tutti. Beh, per esempio c'è il signor Martino che se la piglia molto con i socialisti, dice in questo governo ci sono troppi socialisti, lei che è un vecchio socialista, come risponde a queste critiche? Troppi socialisti? Beh, ho già risposto, ho detto a Martino che se veramente Martino si sente ancora una bandiera liberale, laica e liberale, è strano che non dica mai nulla per esempio sull'8 per mille che va alla Chiesa Cattolica anche per la quota che alla Chiesa Cattolica non spetta, è uno scandalo. Ma lei vuole picchiare sulla Chiesa, va bene, un attimo. Allora volevo dire, se vogliamo andare... Ma lei è d'accordo per esempio sul fatto che venga rivista l'ICI, l'esenzione dell'ICI sulla Chiesa? Ma senz'altro, certo. Dunque, lei del PDL dice bisogna rivedere questa cosa perché ci sono un sacco di immobili che in realtà non servono per scopi, diciamo, di benefici, ma sono in realtà dei veri e propri esercizi commerciali. In primo luogo vorrei che, siccome a destinare l'8 per mille alla Chiesa Cattolica è circa soltanto il 30%, vorrei per l'appunto sapere come mai poi alla Chiesa Cattolica di fatto finisce il 90%. Tutto qua. Lei pensa proprio che pigli i soldi che non dovrebbe prendere la Chiesa? No, adesso ci sono leggi fatte apposta per favorirla, no? Leggi fatte apposta per favorirla. Allora, cambiamo queste robe tanti qui. Tanti anni fa. Ma guardi che mi sa che Martino è favorevole a questo. Infatti feci un'agenzia di risposta a Martino, dico: senti, io stima di te, ti voglio bene, fammi vedere però fino a che punto tu sei alfiere di alcuni concetti, certo, insomma, liberali, ecco. Allora c'è il traffico, torniamo subito. Luca, cosa ti è successo? Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Eccoci qui, la zanzara di oggi, 800 24 00 24. Caro Parenzo, ti ho dato un po' di notizie, ce n'è un'altra ed è un'anticipazione di quello che uscirà su Panorama di questa settimana. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta che ipotizza il reato di estorsione ai danni del Presidente del Consiglio Berlusconi. Dunque sarebbe stato avrebbe subito una sorta di estorsione. Ma da parte di chi? Nel registro degli indagati più persone, Tarantini eccetera eccetera. Vabbè, insomma, poi vi Tarantini è quel signore, ricordiamo, che portava certe signorine a casa di Berlusconi. Sì. Vabbè, intanto Gheddafi resiste, Lener, lei dice viva Gheddafi? Immagino di sì. No. Come no? No, aspetti, io ho solo detto perché sono molto preoccupato e anche un pochino sdegnato. Sul fatto che in Libia, lasciamo perdere che noi siamo entrati in guerra in un modo incredibile e assurdo. Perché incredibile e assurdo? Cioè... Ma perché? Perché questa è un'iniziativa francese, talmente francese che per esempio la Merkel si è tirata fuori. Solo noi che siamo probabilmente così un paese molto debole, molto fragile, abbiamo dato retta. Ma anche Napolitano l'ha voluta questa cosa. Appunto, io allora non volevo prendermela col Colle, ma insomma il Colle ha una responsabilità abbastanza però a parte questo, chi è che rideva, scusa? Ormai... Non ho capito, chi è che ride? Perché ridi? Non ho capito. No, chiedo scusa, perché adesso sembra che la guerra in Libia l'abbia voluta il Presidente della Repubblica. Beh, certo, ci ha messo, allora, del suo. Ci ha messo del suo. Ma l'avete votata voi col pulsantino? Scusi, Parenzo, noi abbiamo votato, però attenzione. Io le voglio veramente bene, la adoro. Se lei fosse una persona informata, allora sarebbe dedotto del fatto che il primo in assoluto a spingere per il nostro intervento in guerra è stato il Presidente George. Ma che dite? Giorgio? Punto. Poi dopo lei può avere qualsiasi idea, però è inutile che lei ride. Ma io rido, ma rido da pazzi? Fatto oggettivo, il Presidente Napolitano ci ha portato in guerra. È stato interventista, punto. Ma poi insomma... Ma l'ha votata, ma scusi... Ha sbagliato a essere interventista, secondo lei? Immagino. Ma certamente che ha sbagliato. Ecco, noi non dovevamo intervenire in Libia. Dire, allora, a parte era meglio tenersi che Gheddafi, dice lei. A parte il delle fatto, due luna. A parte il fatto che noi siamo intervenuti in Libia non per iniziativa nostra, ma sospinti da altri. Vabbè, questo d'accordo. Questo mi pare un fatto oggettivo. Sì. Due, a parte il fatto che io sono contrario generalmente alle guerre, ma queste guerre possono avere un senso se perlomeno sono utili al paese che le ingaggia. Invece in questo caso... Noi abbiamo fatto guerra contro di noi, perché noi avevamo con la Libia un trattato vigente. Dunque ci siamo fatti la guerra contro. Noi abbiamo fatto una figura, secondo me, barbina. Quindi Napolitano lavora contro gli interessi italiani, questo dice Lener. Ma non ho detto questo. Beh, ha fatto... È stato interventista e credo che sia stato, se io credo, questa sì, è credo. La posizione, pressioni francesi. Credo che quando il presidente è andato a far visita ad Obama ha ricevuto qualche ordine secco, insomma. Su Napolitano, sì. Ordine secco da parte di Obama. Ma quindi comanda Napolitano e non Berlusconi. Verissimo, magnifico, abbiamo capito. No, beh, che Napolitano abbia avuto un ruolo, però non c'è dubbio. Dopodiché, non vota mica lui, è uno. No, ma ho capito, certo, poi le decisioni sono state prese. Non è che Lenner sta dicendo che le decisioni non sono state prese. Certo. Sta dicendo che comunque che la c'è stata... decisa, ma l'ha voluta soprattutto Napolitano. Ma ha detto anche che il governo è debole, non è che non l'ha detto, il governo è debole, dunque in questo caso c'è una supplenza da parte di Napolitano che ha voluto la guerra interventista, insomma questo mi sembra un fatto. Allora intanto anche le tasse, Calderoli anche le tasse l'ha voluto Napolitano adesso, anche le tasse che hanno messo l'ha voluto Napolitano. Calderoli vedrai. Sullo sciopero vedrai, vedrai. Aspetta un paio di giorni, vedrai che salteranno fuori, cioè, abbiamo fatto una manovra, la crimetta, allora, l'ha voluta Napolitano. Allora Parenzo, visto vedrai. Che lei insiste vedrai allora posso dirle anche questo è un fatto storico che il suo tanto amato Colle sì. A suo tempo fu fautore anche dell'intervento sovietico a Budapest. Ecco. Che vuole? È una tradizione sua, evidentemente. Ecco. Ah, e siccome Giorgio Napolitano nel 56, sì. Va bene, beccando un grande Giolitti, sì. Il quale disse: io sono comunista, ma non posso stare accanto a coloro che sparano sugli operai bene. E sugli studenti, bene. Il presidente del signor Parenzo dice che dobbiamo ringraziare aspetta. L'Unione Sovietica perché intervenendo in Ungheria e facendo i 100.000 morti che poi fece, bene. Salvò, queste sono sue parole, ha salvato la pace nel mondo. Allora che cosa vuole Parenzo? Io racconto tutta la storia. No, è uno storico, signor Lenner. Parenzo, scusa. Lenner sta dicendo Napolitano era Napolitano ha ucciso 100.000 persone. Era intervenista. Scusa, dunque. Scusa, Parenzo, lei non può giocare con le parole. Ma che dice? Aspetta, Davide, aspetta. È che lui giustificò ampiamente l'intervento sovietico in Ungheria. Dunque, è vero o no, Parenzo? Lei si deve è vero o no, Parenzo? Parenzo, è vero o no? Parlando? Ma di che ma parlando. È vero o non stiamo è vero? Sto parlando delle persone che giocano con le parole e non si assumono mai, ridono, scherzano, fanno battute, ma non si assumono mai l'onere della verità. Ma che diavolo? No, Parenzo, scusa un attimo. È vero o non è vero che il signor Napolitano nel 56 disse che era che le truppe armate sovietiche erano benvenute in Ungheria? Sì o no? Ma cosa c'entra? È vero o non è vero che Berlusconi era iscritto alla P2? Ma chi se ne frega? Ma che cosa c'è? Lenner, scusi un attimo, dunque lei sta dicendo Napolitano interventista era del 56, come ha detto prima, ha semplicemente perpetuato una tradizione, no? Non volevo dirlo, no, l'ha detto prima. Amico Parenzo, è stato il suo amico Parenzo che mi ha stimolato in maniera estrema. Estrema, insomma, cioè, estrema. Quella. Dunque Napolitano è in parte responsabile anche dei morti in Libia. O no? Attenzione. Beh, come attenzione? Il fatto di essere interventista non significa poi avere una responsabilità. Lì semmai è Rasmussen, no? Che ha una responsabilità. La NATO, lei dice, la NATO. Capo della NATO. C'è un altro comunista. Cioè, ma lei, per esempio, tra Gheddafi e Napolitano, chi preferisce? Vabbè, ma queste sono... Scusa, domande... Ma che domande fai? Ma Gheddafi, surreali, evidente. Surreali. Ma Gheddafi, è chiaro che... È chiaro che, io, che io scelgo Giorgio. Tutto insomma, è possibile no? qua. Io scelgo Giorgio, no? Vabbè, che ne so, magari. Tra i due mali, uno sceglie il male peggiore. Tra i due mali, capito? Tra i due mali scelgo come il meno. Lotta come un leone, Lenner. Cioè, tra i due mali scelgo quello meno pericoloso, lei dice. Beh, no? Quello minore. Certo. Quello minore. Cioè, tra i due mali. Tra Gheddafi e Napolitano scelgo il meno dei mali. Vabbè, ma comunque, insomma, sono opinioni. Dov'è? Gheddafi me lo vuole lei. Lo vorrebbe salvare lei, lo vorrebbe, vorrebbe correre verso Gheddafi, ti abbraccio, ti salvo io, ti metto in salvo io, Muammar. No, a me dà proprio sdegno, direi. Sì, sdegno cosa? E il fatto che in Libia, come è successo anche qui in Italia, sì. I complici del regime, sì. I complici di tutti i crimini, fra l'altro, sì. adesso sono a capo degli insorti, sì, vabbè, perché, e promettono naturalmente una vita. Ah, lei, ma il paragone che ho, storico qual è? Quello col dopoguerra in Italia? Certo, Savoia, Badoglio, cioè in Libia abbiamo esportato, sì, vabbè, i principi Savoia, Badoglio, no? Che sono, cioè, i traditori di Gheddafi che sono stati complici del regime adesso sono lì messi da noi là, no? Sì, questo. E questo a me dà molto fastidio. Ricordo sì, che tutti i nostri ebrei, sì, che sono stati catturati dalle SS, sì, per esempio a Roma, sì, beh, questo fu possibile perché Badoglio, sì, non volle abrogare quelle leggi razziali del fascismo, bravo, e bravo, quindi quando arrivarono le SS a Roma, sì, trovarono tutti gli elenchi degli ebrei ancora nelle nostre questure e nei nostri uffici. Quindi... Senta, ma lei napoletano, in questa, come dire, lei che è uno storico, no? Se, sì, dovesse fare un paragone con il ruolo che ha avuto in questa vicenda libica e un ruolo di un altro personaggio nella storia, chi lo paragonerebbe? Cioè, napoletano che, insomma, spinge molto, come dice lei, questo secondo me è un fatto della verità, spinge perché noi... Giolitti, ma si salta gli occhi, no? Cioè? Che ha cominciato la nostra avventura in Libia nel 1911, Giolitti. Cioè, napoletano come Giolitti, insomma. Beh, è un complimento, perché, insomma, Giolitti è stato uno statista... veramente valido, ecco, in tutto questo il governo, beh, però era uno statista, diciamo, di quegli anni in cui c'era il colonialismo, cioè comunque c'è un contesto storico. Allora c'è la borsa, ritorniamo subito con Giancarlo Lehner, PDL, però PT, no, Parenzo? Sì, Popolo e Territorio. Io voglio sempre che tu lo ripeta, Popolo, nel modo in cui lo pronunci te, anche simpatico, sì, PT, Popolo e Territorio. A tra poco. Eccoci qui alle 18.33, 800 24 00 24, ancora qualche giorno, gentile Parenzo, con questa versione estiva, un orario estivo della Zanzara dalle 18 alle 20.30, poi da lunedì si ricomincia. Non è male questo orario, alla fine. Beh, io mi sono abituato all'altro, non so, i tempi radiofonici un po' settati sull'altro orario, sì, non è male, in generale non è male, però è buono che questo orario. È buono, dici, eh? Sì. Beh, perché si finisce prima. No, ma anche sì, c'è da mangiare prima, alle 18 c'è l'aperitivo, mentre si fa l'aperitivo si ascolta. Adesso ti faccio ascoltare una cosa, perché io trovo veramente assurdo che per io una... Io voglio capire una cosa dall'onorevole, sì, Lehner, che sì, dopo ci spiegherà tutto. Che vuoi capire, no? Che vuoi capire, dimmi, che vuoi capire? No, perché dall'onorevole Lehner, se questo governo e questa maggioranza, sì, ha una cosa che ha fatto senza Napolitano. Ma lo dice che è sbagliato, ma ha detto che è sbagliato l'intervento. Insisti. Vabbè, ma tu pensi che l'onorevole Lehner non sappia? Lui dice che è sbagliato l'intervento, è chiaro che dà pure qualche responsabilità pure al governo, non è che non la dà. Ah, ecco. Ma mica stai parlando con un citrullo, No, ma perché? Io ho una stima, un'amicizia e un affetto anche fisico per l'onorevole Lehner. Fisico, però... addirittura fisico, adesso non esageriamo. Sì, un trasporto, però voglio dire, una cosa di cui il governo dice le tasse, ce l'ha detto l'Europa, la Merkel, ma che è napoletano, è molto napoletano, critico. Vabbè, comunque dopo lo interpelliamo. Vabbè, ti voglio far ascoltare una cosa clamorosa, sì, cioè, clamorosa, in realtà non è clamorosa. Ti pare possibile? Scilipoti. Ti pare? No, Scilipoti, no, non lascia perdere. Poi da Scilipoti voglio un chiarimento sulla vicenda Saia, perché sì, sia Saia che la moglie, la signora Cannizzaro, quei due pazzi. Ah, non sai che l'hanno ricoverato Saia? No. Sì, in ospedale psichiatrico, hanno riaperto. Ah, no, dai su. Vabbè, insomma, quei due signori, io che ho detto pazzi così, in senso, l'adorabile coppia di moderati, l'adorabile coppia di liberali, dicono pure che sono in contatto, che Scilipoti collabora con loro. Secondo me un deputato della Repubblica importante come Scilipoti, come è diventato Scilipoti, che peraltro appartiene allo stesso gruppo del signor Lehner, vecchio antifascista il signor Lehner, dovrebbe chiarire, signor Scilipoti, se è vero che ci sono questi contatti con questi due signori, insomma, almeno questo dovrebbe chiarirlo. Vabbè, ma questo adesso coppia mi hai trasportato sul discorso Scilipoti che non volevo affrontare. Chiedo scusa. Il punto è un altro. Ti pare possibile che il presidente del Senato Schifani, insieme al direttore generale Rai, che peraltro è più giustificabile perché è un prodotto dell'azienda, intervenga perché in un programma di Radio 2, che ha come titolo, se non sbaglio, ho qui un sacco di appunti, non me lo sono perso, comunque condotto da Max Laudadio, programma estivo in cui intervengono gli ascoltatori eccetera eccetera. A un certo punto il conduttore, rispondendo a un ascoltatore sui costi della politica, interviene in questo modo. Vi faccio ascoltare, prima c'è l'ascoltatore che interviene in programma di Radio 2, poi Laudadio. Quei signori che guadagnano 15-20 mila euro al mese hanno una trattoria per centinaia di persone, che si può mangiare un filetto con 5,23 euro, mi sembra una cosa indegna. No, è una cosa folle, è una cosa folle, Giancarlo, assolutamente folle, certo. Ma loro, tu lo sai che quando uno diventa parlamentare, politico eccetera, iniziano una serie di benefit che poi dopo, stiamo scoprendo via via. Oltretutto, se sti delinquenti facessero il loro lavoro sarebbe tutto a posto. Il problema è che non lo fanno, capito? Il problema è che non lo fanno. La parola in questione è sti delinquenti, pronunciata dal conduttore, riferita evidentemente ai politici in generale, che non fanno, vabbè, le solite cose. Adesso non discuto sulla parola questi delinquenti o meno. La trasmissione attende in linea, ma ti pare possibile che per una cosa del genere si muove il Presidente del Senato? I politici sono gli azionisti della Rai. Sì, ma chi se ne frega? C'è il conduttore, che dice questi delinquenti, ma risponde. Io non giudico Laudadio, non mi importa di giudicare. Ognuno interpreta il ruolo di conduttore come vuole. Forse ha commesso un errore, perché dire in generale sti delinquenti, eccetera. Però a noi capita spesso di generalizzare tutto. Insomma, mi sembra assurdo che si muova il Presidente del Senato. Cioè, il Presidente del Senato non ha nulla da fare, il signor Schifani, che mettersi là a scrivere, a protestare contro la RAI perché dà spazio o perché un conduttore pronuncia una frase di questo tipo. È il bello che il direttore generale della RAI, la signora Lei, va dietro a questa cosa dicendo interverremo, eccetera, è uno scandalo e tutto. È roba da matti, davvero, ma i politici governano con il servizio pubblico e si ritengono i padroni, quindi purtroppo è normale, purtroppo. Lener? Sì? Che dice lei? Ma io dico che, allora, parlare di politici e di delinquenti, che in certi casi magari può anche essere vero. Però attenzione, fa parte di una cultura molto preoccupante. No, ma questo d'accordo, però francamente è molto preoccupante. Viva signor Laudadio, abbracciamo il signor Laudadio. Abbracciamo il signor Laudadio. Io lo sto già abbracciando. Lo stai già abbracciando, Sì. Anch'io, Max Laudadio, noi siamo con te perché ci piace il politicamente scorretto, ci piacciono anche gli errori, perché uno può anche sbagliare dicendo, gli può scappare una parola, ma non è il caso che intervenga il Presidente del Senato, Senato. Sono d'accordo anche io, il Presidente avrebbe dovuto occuparsi di altro, sicuramente. Però dico, queste espressioni fanno parte di una cultura, insisto, preoccupantissima. Ma sì, d'accordo, ma sicuramente Laudadio così ha detto questi delinquenti che non fanno niente. Io non lo dico, Parenzo non lo dice, anche se abbiamo un linguaggio certamente ogni tanto sguagliato, però non è il caso di fare un dramma. Comunque, si può dire in democrazia, si può dire delinquenti. Nella dittatura di Gheddafi non si può criticare il regime. Beh, ma da noi si immagino fosse, immagino fosse una dittatura, Lener, almeno questo lei lo ammette o no? Ma certo, ma chi ha difeso mai Gheddafi? Però lei lo vuole in Italia, vuole aiuto umanitario, cioè l'accogliamolo in Italia in esilio, sbaglio? Ho detto che il nostro governo, visto che è intervenuto in guerra col trattato di amicizia vigente con la Libia, quindi una scorrettezza spaventosa secondo me, allora poteva, anche per evitare ulteriori stragi che purtroppo continuano a Tripoli, offrire a Gheddafi e ai figli, alla sua famiglia, un'immunità per farlo andare ovunque voglia andare. Ecco, ma Frattini anche... Scusi, però, Lener, io la capisco questa posizione, io anzi forse la condivido pure per il tipo di rapporto che abbiamo avuto con Gheddafi, però qui il suo governo, il governo di cui lei fa parte, anche se è un deputato e non un ministro né un sottosegretario, chi è che... Cos'è questo rumore? Ah, David. Il governo di cui lei fa parte sostiene una linea diversa, cioè è passato dall'abbraccio con Gheddafi a portiamolo in tribunale. Appunto, io non sono... Ma questa è una vergogna oppure no? Io sono assolutamente che è contrario a questi salti logici senza alcuna spiegazione. Cioè, Frattini dice basta, portiamolo davanti al tribunale, deve rispondere davanti al tribunale. Un anno fa diceva che era uno da rispettare, che la sinistra sbaglia a criticare il governo e tutto. Ma insomma, ci vuole un po' di coerenza o no? Sì, sì, no, allora, del resto in Italia anche a sinistra ci sono stati tanti grandi amici. Allora, su questo non c'è dubbio, certo, certo. Allora, a questo punto io ho detto, dico, un'iniziativa umanitaria, no? Allora, da parte nostra, non per salvare Gheddafi dalle sue responsabilità, va bene, ma per andare ad evitare altro sangue, purtroppo insisto ancora oggi, ho letto di oltre 500 morti, noi avremmo dovuto come Italia proprio prendere un'iniziativa. Accoglierlo in Italia, in esilio. Non accoglierlo in Italia, accoglierlo e poi aiutarlo a andare dovunque, credo che lui voglia andare in Venezuela, mi pare che questo sia il suo sogno. Il suo sogno è questo, il suo sogno addirittura, insomma, certo, farsi americano, anche lui si vuole fare americano, secondo me. Sudamericano in questo caso. No, beh, sempre America è. C'è America. Senta, America per però, cui, insomma, lei mi dica la verità, lei un po' fa il tifo per la resistenza di Gheddafi, che resiste come un leone, ce lo vede come un personaggio un po' a me piace perché diciamo questa sua questo suo cercare, con la bella morte, esatto, è un po' fascista, quindi non può essermi simpatica la cosa. Né però, attenzione, io sarei favorevole alla strage, perché poi succede come succede. Però davanti a quest'uomo, ormai ridotto e asserragliato e circondato solo dai fedelissimi, ci sono forze inenarrabili, cioè la NATO, gli insorti appoggiati dagli altri. Insomma, non le fa un po' tenerezza quest'uomo? Cioè non le suscita qualche un moto di simpatia? Questa resistenza nel bunker? Allora, simpatia a me mai ha fatto simpatia, anche perché è un anti-israeliano, quindi è sempre stato. Però per il ruolo che abbiamo avuto noi dovremmo fare qualcosa per risolvere. Per il ruolo che abbiamo avuto noi italiani, generale, non solo questo governo, va bene, avremmo dovuto prendere noi un'iniziativa. E invece non l'abbiamo fatta per colpa. Senta, ma l'iniziativa di Napolitano di cui lei ci ha parlato prima, la possiamo definire un po' criminale dal suo punto di vista? Ma no, adesso io sono sicuro che il Colle abbia ragionato con il realismo politico, la realpolitik. Ha parlato in alto loco, gli hanno fatto comprendere che era opportuno, che era giusto, che era utile all'Italia intervenire, e poi ha agito di conseguenza. Ecco, io andrei a chiedere alla Merkel perché si è tirata fuori. Intanto interpelliamo qualche ascoltatore. Davide da Milano, anzi no, c'è Antonio da Cagliari, 800 24 00 24, poi Davide da Milano, Gianni da Torino. Lei ne resti lì perché abbiamo diversi argomenti, compreso il caso Bocchino Began, che è tornato d'attualità. È bellissimo. È bellissima la storia, meravigliosa. Meravigliosa, altro che Gheddafi. Siamo oltre Gheddafi. Antonio da Cagliari, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, dica. Allora, molto semplicemente, una delle notizie del giorno è che, notizia trita e ritrita, ma c'è, che l'Italia è fanalino di coda sull'occupazione giovanile. Vabbè. Il che si somma a tutta un'altra serie di cose. Vabbè, solite cose, insomma. Solite, normale. Insomma, sì, normale, purtroppo. Insomma. c'è anche una cosa, per carità, cosa verissima, eccetera. Però quando si fanno queste considerazioni, spesso si ha quasi la sensazione che qualcuno, siccome sento questi dati da tanti anni che non riguardano solo l'Italia, ma eccetera, che ci possa essere un mondo ideale in cui ci sia la disoccupazione zero. Questo purtroppo non può esistere, non è così. Però che un terzo dei giovani, o un quarto, un quinto, quello che non faccia nulla o ufficialmente non si è occupato, non è bellissimo. No, per carità, certo che non è bellissimo, assolutamente. Sì, allora? Oh, Il nostro paese ha il problema della disoccupazione giovanile, sì. Il problema della scarsa o comunque di dover aumentare l'imposizione fiscale o di dover aumentare almeno la base imponibile, il problema di dover crescere, sì. Un sistema per crescere è aumentare le persone che prendono uno stipendio, sì. E che quindi lavorano e producono e, sì. Spendono, perché poi? Il problema è che qui si spende poco, bene, poi? Noi abbiamo tantissime persone a spasso e tantissime persone che occupano 3, 4, 5, 6 poltrone. Abbiamo professori universitari che sono assessori regionali, che sono. Sì, anche ma non è che primari. Togliendo le poltrone e mettendoci altre persone al posto di queste si risolve il problema. Il problema delle persone che hanno più cariche esistono, ma non è che togliendo alcuni posti poi automaticamente entrano altre persone e si risolve il problema dell'occupazione giovanile. Mi perdoni, se si partisse da un principio per cui un sedere può occupare esclusivamente una poltrona. Ma questa francamente sarebbero un bel numero di poltrone. No, Antonio, guardi, che ci sia un problema nell'università di professori che forse vanno in pensione troppo tardi o comunque non se ne vanno, perché tutto vero, ma non è che perché i multi incarichi da parte, non è che risolvono, non è che se uno dice io ho tre incarichi, uno sono amministratore delegato da una parte, poi sono nel consiglio di amministrazione di là e poi ancora forse alcuni enti andrebbero eliminati, ecco, non è che vanno le poltrone vanno tagliate, non è che devono essere rimpiazzate, ma abbiamo il traffico. Strade in diretta. Bentrovati, si rallenta per un incidente sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e l'innesto per la A25 Roma-Pescare verso la Teramo Mare. Altrove rallentamenti sull'autosole per traffico intenso tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna. Qualche coda in uscita da Genova sull'autostrada A10 tra l'innesto per la A7 e l'aeroporto. Al traforo del Monte Bianco ci sono attese di circa 30 minuti per oltrepassare la dogana in direzione Francia. Infine, è un incendio ad aver provocato l'interruzione nel primo pomeriggio della linea ferroviaria Milano-Domodossola tra Gallarate e Somma-Lombardo. La circolazione ora è ripresa, ma i treni viaggiano con forti ritardi. Ed è tutto, a più tardi. La Zanzara. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di quelle. Questa la devi imparare, Parenzo. Pippo Franco. Sì. Che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi te l'avrebbe mai detto che saresti finito a cantare chi co alla radio? Abbi pazienza. Si studia anche per questo, no? Alto e basso, cioè, come qualcuno, segno di grande intellettuale. Qualcuno, se qualcuno ti avesse detto fra qualche anno canterai chi co alla radio? Alla radio del Sole 24 Ore probabilmente avresti detto tu sei un pazzo, no? Soprattutto alla radio del Sole 24 Ore, però il mio sogno è quello che l'onorevole Lehner canti chi questo è Pippo Franco. Questo sarebbe no, il top, far cantare l'intellettuale Lehner però lo fai bene, non è male. È la mia formazione. Io voglio dire sempre oggi, e poi basta, viva Max Laudadio, conduttore di un programma su Radio 2, Attenda in linea, che viene attaccato in maniera ridicola dal presidente del Senato Schifani e da molti politici. Bene l'intervento di Schifani, leggo qua. Seconda carica dello Stato. Seconda carica dello Stato che dice, beh, c'è un conduttore in un programma del mattino su Radio 2 che ha detto sti delinquenti e faccio un intervento. Il presidente del Senato parla di grandi cose, di massimi sistemi. No, si deve occupare di una trasmissione radiofonica su Radio 2. È una cosa pazzesca. È una cosa, se uno ci pensa, è una cosa pazzesca. Cioè, e tutti quanti a dire, sì, bene, ho fatto bene, sì, la politica deve essere difesa. Ma difesa da chi? Ma difesa da chi? Dal pericolo Laudadio? Da chi? Da chi deve essere difesa? Lehner, mi aiuti lei? No, quello che è surreale, tra l'altro, è che il giornalista provenga da Mediaset. Ma no, questo Laudadio in realtà forse non è nemmeno giornalista dal punto di vista formale, cioè, non è manco, cioè è un conduttore radiofonico, adesso non so se venga da Mediaset o meno, non lo so, cioè, il nome mi dice qualcosa, un giornalista, conduttore radiofonico, tra l'altro di esperienza, il quale conduce una trasmissione e gli è scappata una parola, sti delinquenti, credo a Striscia, sì è vero, ha ragione lei, è stato a Striscia, sì Max Laudadio è quello che fa Striscia la notizia, sì certo, come no? Appunto, adesso, e questo rende ancora più surreale il tutto, no? Vabbè, perché lei dice? Ma forse è stato, perché? Perché è più surreale, lei dice? Beh, surreale, perché generalmente si accusa Berlusconi di avere il controllo sui mass media, però diciamo ci sono più comunisti a Mediaset che altrove. Ah, lei dice che ci sono più comunisti a Mediaset che altrove. Ma questa è cosa oggettiva, più comunisti, più anti-berlusconiani, diciamo. Ah, Mediaset è pieno, lei dice? È strapieno. Strapieno, per esempio in capo chi c'è, in testa chi c'è? No, adesso senza fare i nomi. E come senza fare i nomi? Almeno uno può vedere, dire, è sufficiente vedere, per esempio, Italia 1, oppure Striscia stesso, che a volte è pesante, ma sì. Questo, attenzione, questa è una cosa che io giudico bene, nel senso che sia Mediaset c'è spazio di libertà per tutti. Sì. Comunque lei dice pieno di comunisti, pieno di comunisti. Beh, insomma, comunisti adesso. Beh, lei ha detto pieno di comunisti. Sì, vabbè, insomma, di anti-berlusconiani. Pieno di comunisti anti-berlusconiani. Sì, anti-berlusconiani, sì. Di ferro. Beh, questo può essere anche vero, cioè non è che... Cioè, lei è proprio certo di questa cosa qua, cioè nel senso che proprio quando parla, neppur parla di gente che conosce, eccetera, proprio riconosce una sorta di tic anti-berlusconiano tra le persone che lavorano a Mediaset. Sì, è così. Vabbè. Senta, ma allora la vicenda... Insisto, è un fatto che io apprezzo. Sì, no, certo, per carità. C'è uno che le dà ragione sulla vicenda di Napolitano. Sentiamo Davide da Milano. Buonasera. Dica. Mi ha sollecitato sull'Audadio, sul quale vorrei dire una cosa, però se vuole rimaniamo su... No, faccia quello che vuole. Qui si può dire quello che vuole, non siamo... No. Per fortuna, il Presidente del Senato Schifani qui non può intervenire perché non è la RAI. Cioè, non può intervenire il Presidente Schifani. Allora faccio così. Prima parlo della Libia, poi sono sicuro che mi chiederà anche qualcosa sull'Audadio, visto che l'argomento sento che le sta a cuore. Ma no, ma non è che mi sta a cuore Max l'Audadio, per carità. Non lo conosco, mi sta simpatico e tutto. Ha detto una roba in una radio e deve intervenire il Presidente del Senato Schifani, ma mi sembra una roba talmente ridicola. Che non c'è bisogno manco di commentarla. Non esiste in nessun paese normale che il Presidente del Senato intervenga su una frase di 2 secondi che abbiamo fatto ascoltare, pronunciata. Tagliatemi con sti delinquenti, lo voglio mandare di continuo stasera, solamente la cosa, queste due parole, sti delinquenti, lo voglio mandare tutta la sera. Davide. Ma a me invece, ecco, se posso dire, allora entriamo subito su questo, ma a me questa faccenda che si usi il servizio pubblico per delegittimare in toto una classe politica, secondo me è sbagliato. No, però mi scusi Davide, ma non è che sta usando... Ma non è che sta usando il servizio pubblico, è un conduttore di un programma, non del servizio pubblico, il conduttore di un programma su Radio 2 che la mattina, rispondendo a un ascoltatore, ha utilizzato, forse sbagliando, forse no, ma non me ne frega niente nemmeno di giudicarlo, sti delinquenti, non si può aprire un caso per una cosa di questo tipo, no? Però se posso dire, il dibattito degenera anche perché tutti sentono di poter dire qualcosa. E vabbè, questo sarà la responsabilità di chi gli ha dato il programma, però non di Schifani, abbia pazienza. I maghi, di finti dentisti, di queste cose. Allora, preoccuparsi dei privilegi veri o presunti che siano della classe politica, forse è una cosa che è meglio che faccia un giornalista più autorevole, che sia documentato. A parte che Davide impara 2 cose, le viene ripetendo. Scusi Davide, però Davide, scusi un attimo, non è che ce lo deve dire lei o lo deve dire lei alla RAI chi si deve occupare dei costi della politica. Quella è una trasmissione come questa in cui chiunque può intervenire, chiunque può dire delle cose. Poi sta agli altri giudicare l'autorevolezza o meno, in particolare ai dirigenti di quell'azienda che creano la trasmissione e che mandano in onda il signor Laudadio. Dunque, sono tutte considerazioni che possiamo fare. Il punto fondamentale è un altro. C'è un conduttore di una trasmissione radiofonica il quale pronuncia 2 parole, sti delinquenti. Queste 2 parole, sbagliate o meno, sta all'azienda a giudicare. Non mi sembra che sia intervenuta prima l'azienda. A un certo punto interviene la seconda carica dello Stato e questa è una cosa ridicola, ridicola. Punto. Al di là dell'oggetto, poi magari può avere sbagliato Laudadio, non lo so, ma è ridicolo, è semplicemente ridicolo. La ringrazio, però resti lì che voleva parlare della Libia. Lener, allora, lei perché si dice che addirittura Bocchino dovrebbe dimettersi da parlamentare? Scusi. Mi pare ovvio, cioè in una situazione abbastanza tragica, in cui ci sono i tagli, in cui bisogna fare risparmi, in cui bisogna dare anche il buon esempio, no? Sì. Cioè, io sono assolutamente favorevole al fatto che l'intera classe politica dia esempi o di sé abbastanza alto. Allora che avrebbe fatto il signor Bocchino? Sia a livello intellettuale, sia a livello morale, sia a livello di comportamento. Che avrebbe fatto il signor Bocchino? Che, se è vero, io l'ho letto oggi, l'ho letto su Chi, con le foto, eccetera. Se è vero, attenzione, che l'onorevole Bocchino è andato da Roma fino a a Ravello. Da Roma a Ravello, sì. Insieme a una sua nuova amica, la Began. La signora Sabina Began, sì. Sabina Began, con la macchina di servizio e con la scorta. Sì. E beh, allora a questo punto io dico, beh, se è vero, cioè, o è falso, allora va bene. Vabbè. Lui spiegherà che è falso, che lui è, però se è vero, sono andati a piedi fino a Ravello, oppure in treno, oppure in torpedone, sì, benissimo. Ma se è vero, attenzione, dovrebbe dimettersi, perché in questo momento storico è una cosa intollerabile. Aggiungo, andare con la Began a Ravello è intollerabile, non è veramente aggiungo, è tollerabilissimo, eh. È una cosa, aggiungo, è una cosa, attenzione, a Ravello anche fossero andati a Ostia, quello intollerabile è auto blu e scorta, insomma, no? Ma beh, lui l'auto blu ce l'ha, scorta ce l'ha perché è capogruppo. Beh, però non per andare, non capo, per no, non no, capogruppo non credo, no. Della vedova capogruppo è vicepresidente. Ma allora a questo punto, allora io vedo che se, ma qual è incredibile, non ho capito, il mio futuro fidanzato Parenzo, che ha espresso addirittura affetto per me, poi insomma Parenzo per prima o poi se sono rose fioriranno. E dico, qui il punto è molto serio invece, anzi io dico al Viminale, sì, vogliamo pensare un attimo a queste scorte? Ma cioè, perché ma Bocchino ha la scorta, dice lei? Perché Bocchino e altri, non solo, sì, lui, deve avere la scorta, insomma. Questo chi è che può attentare alla sua vita? Lasciamo, allora, restate con noi, Lener, alle 19.15 la richiamo perché avremo la testimonianza live della signora Began. Oh. Caro Parenzo, che ci spiegherà tutto. Dunque, Lener, fra un quarto d'ora la richiamiamo e ci spieghiamo bene con la signora Began, la scorta, Bocchino, lei viaggio. La conosce la signora Began? La conosce la signora Began, lei? Io? Non ha il piacere? No, io non ho il piacere. No. Non ha il piacere? Ma la vista, essendo senza scorta, non posso arrivare fino a Ravello con la signora Began. Ci sentiamo tra un quarto d'ora. 800 24 00 24, la Zanzara, Davide da Milano, Paolo provincia di Milano, Gianni da Torino e tutti gli altri. A fra poco. Eccoci, TG3 subito, 800 24 00 24, presentato da chi sarà il nostro ospite tra poco, tra poco, restate lì, cioè dire Sabina Began che ci racconterà della vicenda Bocchino. Caro David, titoli. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinguer. Si combatte ancora per le strade di Tripoli, Gheddafi non si trova ma lancia messaggi audio, solo una ritirata tattica, una taglia sulla sua testa. Liberi giornalisti stranieri assediati all'hotel Rixos, negli scontri di questi giorni centinaia di morti, la CNN, in Libia soldati occidentali. In Italia oltre 1 milione di giovani senza lavoro, 500.000 solo al sud, con un paradosso, per le aziende è difficile trovare manodopera. Alfano, manovra da cambiare, con la Lega troveremo l'intesa, incontro con i frondisti, ipotesi aumento IVA e alleggerimento supertassa. La Camusso, sciopero per una manovra diversa, CISL e UIL contro la protesta, Bersani non disperdere l'unità, il segretario CGL, ospite al TG3. Morto in Puglia un ragazzo colpito dai militari, forse voleva fare uno scherzo agli amici, ancora un omicidio a Roma, ucciso un 18enne. No della Lega al contratto dei calciatori e senza firme niente partite, lite sul contributo di solidarietà, Calderoli allora aliquota doppia. Tu, eppure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, curu curu curu curu curu qua qua. Chi chi chi, co co co, curu curu curu curu qua qua. Con tanti galli che cantano, chi chi chi chi chi, troppe galline rispondono, co co co co co. E se se i piccioni spariscono. Borghezio colpisce ancora, come sai, Parenzo, ieri sera, sempre qui alla Zanzara. Poi non si capisce cosa significa questa sospensione, se uno può parlare a destra e a manca come, va, come gli pare. Per carità, noi siamo contrari alla... che vada a titolo personale. Sì, no, vuol dire, noi siamo contrari, per carità, alla sospensione nei confronti di Borghezio, lo abbracciamo fortissimo. Oddio, però... l'ha fatta un po' grossa l'ultima volta. Sì, comunque. Sì, comunque noi siamo sempre vicini a Borghezio per definizione, ormai, per costituzione, per non so per che cosa. Il punto fondamentale è un altro, che tutte queste procedure, la sospensione, cioè, a cosa servono? Cioè, sono tutte cose interne. Cioè, parla a destra e a manca, pur nel suo esilio, autoesilio, sì. A Nizza o a Malta, non so dove. Per cui di che stiamo parlando? Di quale sospensione stiamo parlando? Cioè, uno dice delle cose su Breivik, sulla Norvegia, gravissime, per carità, io non avrei sospeso nessuno, ma comunque insomma, la Lega ha deciso per motivi di politici interni di sospendere Borghezio, dopodiché Borghezio parla e dice quello che gli pare da qualsiasi angolo del mondo, se mi sembra una cosa ridicola, comunque colpisce ancora e colpisce Borghezio sull'Italia. Dal male dell'Italia nasce il bene della Padania. Bossi ha ripreso a dire quello che tutti noi pensiamo, che da un male nasce un bene, dal male dell'Italia nasce il bene della Padania, io l'ho sempre detto. Quando Roma affonda noi emergiamo, è un bene provvidenziale perché fa capire anche a molti padani un po' coglioni che il nostro interesse è diverso da quello dell'Italia. Siamo due realtà economiche, sociali, storiche, filosofiche, eccetera, completamente diverse. Il coccodrillo sa. Ma chi è ancora che spernacchia così? Sei tu? È il ministro? No, è il ministro. Ah, è ministro, sempre ministro. Scusi Lehner, ma lei che vuol dire, anche lei ne dice di cotte di crude, ogni tanto ha delle battute molto molto sferzanti, sagaci, salaci e sagaci. Beh, insomma, certamente non è uno che le manda a dire, no? Cioè, no. Quando è il caso, cioè, tra anche... l'altro io pure sono un deferito. Ai propri viri, sì, ai propri viri. No. Perché sono cosa? Deferito. Scusi, ce lo può ricordare perché cosa? Così, perché ho fatto alcune critiche sulle signore, su alcune donne, alcune sì. Signore nostre, alcune signore, sì. Ma questo a proposito della vicenda Bocchino, sempre, no? Questo Bocchino che insomma mi sembra, da quando si è separato, piuttosto attivo dal punto di vista delle frequentazioni femminili, cioè passa comunque da una signorina in motorino che... Beh, vabbè, questo... no? Questa attività insomma, mi pare positiva, sì. Quello che importa è che non sia svolta a spese di Pantalone. Ma è vero che si vuole riavvicinare a Berlusconi, secondo lei? Ma se Bocchino si riavvicina a Berlusconi, sicuramente io mi allontano mille miglia. Cioè Berlusconi dovrebbe prendere la calci nel sedere dopo quello che gli ha detto. Cioè, c'è un limite a tutto, insomma. Intanto però prima ho sentito Borghezio. Sì. Io esorto, come una volta disse Ugo Foscolo, sì, italiani mi esorto alle storie. Sì. Ora, il Risorgimento, sì. Allora, Borghezio forse non lo sa, sì. È un fenomeno soprattutto del nord, cioè chi ha voluto l'Italia è stato il nord. I padani soprattutto, certo, i bergamaschi. No, ma secondo me Borghezio lo sa benissimo, eh. Ah, lo sa questo? Secondo me sì. È una creatura loro, cioè, non so che cosa vogliono. Cioè, lei dice l'Italia è una creatura loro, insomma. L'Italia che loro odiano, insomma, non sopportano, mal sopportano, è una creatura loro. Comunque non è ancora tutto, rispetto a Borghezio, lo sapete. Farei il console addirittura, capisce Lena? Cioè, Borghezio ha detto, nella futura divisione tra l'Italia che da Roma in giù e la Padania a nord, io farei tranquillamente e molto volentieri il console in una bella, sì, località italica per conto della Padania. Via, sentiamo. Ma Berlusconi ha detto una grande verità: l'Italia esisterà sempre, è rappresentata dagli spaghetti, da Pulcinella, anche un po' dalla mafia. Anche quando noi avremo la Padania autodeterminata, l'Italia continuerà, avremo degli ottimi rapporti. Se mi nominassero console della Padania in una bella località italiana, sarei la persona più felice del mondo. Gli italiani sono simpaticissimi, gli italiani sono i migliori vicini di casa che uno possa avere. Devo dire che è sempre strepitoso comunque Borghezio. Il console Borghezio. È strepitoso, lei bisogna ammetterlo che è strepitoso. Sì, no, bisogna ammetterlo. No. mette di buon umore, no? Sono simpatici e bella, mi pare. Mette di buon umore, mette di buon umore. A me, cioè, mette di buon umore, perché a me, pure a me mette di buon umore, non so perché. Poi certo, a un certo punto ha rivalutato il fascismo, perché poi Borghezio ha tutta una sua origine, diciamo, nella destra europea, chiamiamola così. E ha detto il fascismo ha fatto delle cose fondamentali. Mica tutto quello che ha fatto il fascismo è incivile. Pensiamo all'introduzione della tredicesima, non è una cosa civile. L'istituzione del dopolavoro, sono cose civilissime. Al netto delle leggi razziali e della vettura bellica della seconda guerra mondiale, il fascismo regime ha realizzato molte iniziative che sono state fondamentali per la modernizzazione del paese. E che vuoi fare così? A me qui viene in mente Benigni, guarda che... Perché? Quando Benigni, no? Quando diceva, cioè, è arrivato l'idraulico, mi ha sistemato la caldaia, però nel frattempo mi ha trombato la moglie, mi ha spaccato il salotto, e dice, però guarda che bella caldaia che ha fatto. Dice, sì, capito? Allora, intanto, giustamente, qualche giornale online di quelli che leggo io, tipo il bellissimo L'Inchiesta. Ottimo, signor Tondelli. Del nostro amico Tondelli, dà qualche titolo su questa vicenda di Marchionne e Montezemolo. Al terzo giorno di CL Marchionne creò Montezemolo, lancia Montezemolo in politica. E poi un'altra cosa che riguarda sempre la vicenda Marchionne e Montezemolo: dopo il partito Publitalia nasce il partito della Fiat. Questa non è male, perché sì. Magari il paragone è un po' ardito. Però certo, questo endorsement, no, Lener, di Marchionne nei confronti di Montezemolo è significativo. Lei Montezemolo come lo considera? Una, com'è che ha detto Bossi recentemente? Anzi, no, Calderoli? Beh. Calderoli, che cos'è che ha detto? Su... Mi pare una scoreggia. Una scoreggia dell'umanità che non ha mai lavorato. So. Che dice Lener? Ma no, io insisto, chiunque voglia candidarsi può farlo. Certo, io non sono molto d'accordo sul partito della Fiat, anche perché ultimamente sarebbe un partito perdente sin dalla nascita. Perché, dice lei? Beh, insomma, la Fiat mi pare che sia a pezzi, insomma, no? Allora, ricordo... Cioè, sarebbe il partito del fallimento, sarebbe il partito dei falliti, lei dice. Appunto, io ricordo il grande progetto della 500 da vendere agli americani, in quantità straordinarie, invece pare che si venda molto poco, anche essendo poi una macchinina, mi pare, gradevole, però sì. Insomma, si vende molto poco. Comunque, se lei dice non parte questo partito dalla Fiat, che comunque sembra sembra un po' profilarsi all'orizzonte dopo questo... anche il partito di CL parla del partito di CL. Vabbè, questo che c'è adesso lascia bene sempre con questo partito di CL. Esiste, voglio dire, non è un caso che da lì escano delle notizie importanti, la lobby di CL. Allora, dentro... qualche ascoltatore, qualche ascoltatore, poi abbiamo la signora Began fra poco, Lores da Vicenza, anzi no, c'è, eravamo con Davide da Milano, sì, Davide. Da CL alla Began, ottimo, molto zanzara, ottimo. Eccomi qua. Davide, dica. Ancora su Laudadio, se volete parlare ancora di quello. Ah, Laudadio, cos'è che ha detto? Sentiamo un attimo solo. Oltretutto, se sti delinquenti facessero il loro lavoro sarebbe tutto a posto. Oh. E questa è la frase incriminata. Devo meditare meglio in questo tempo di attesa. Allora, se un giornalista della BBC dicesse che quelli di Westminster sono dei delinquenti, neanche la trasmissione finirebbe, verrebbero due energumeni e lo sbatterebbero fuori per sempre, nei grandi santuari del pluralismo. Io ho paura che l'Italia, con questa idea di parlarsi troppo addosso, di criticarsi troppo e dare voce a tutti quanti, alla fine faccia il male e finisca per danneggiare se stessa, perché non ha nessun senso che un giornale, non è libertà di espressione questa, è volgarità, è rotolare. Io peraltro non ho grande fiducia nella gente, quindi non ho, insomma, mediamente, ecco, non penso che ci siano dei migliori, degli ottimati che possono migliorare le cose, come quel signore che ha telefonato prima di spartire le poltrone, i doppi incarichi, queste sono idee balzane che arrivano da persone che ragionano come Laudadio. Allora, guardi, però mi scusi, Davide, non è che si risolvono gridando. Io avevo 25 anni quando c'era Mani Pulite. Se ero a Roma, forse andavo a Rafael, perché mi avevano fatto una testa tanto grande che sembrava giusto andare là a attaccare. No, ma che ci sia un clima, guardi Davide, che ci sia un clima di non l'ho mai creato, perché poi questi scrivono via Twitter pensano di essere tutti dei geni. No, non ma lei, lei ha ragione, ha ragione al 100% quando dice che ogni tanto c'è un clima pericoloso in cui si fa di tutta l'erba un fascio, c'è chi dà appunto dei delinquenti, come ha fatto Laudadio, ai politici in generale. Questi delinquenti sono espressioni certamente non, ma non lo so, non so nemmeno a giudicare. Il punto è un altro, non è questo qui, questo possiamo essere d'accordo, è che c'è l'intervento del Presidente del Senato su una cosa di questo tipo per una trasmissione della RAI. Perché in un'altra nazione non sarebbe necessario. Ma non è vero, ma non è vero nemmeno quello che dice lei, ci sono i programmi più scorretti possibili, immaginabili anche sulle televisioni pubbliche. Non è vero, non come è non vero. È vero. Ma poi, sono, visto, ma poi la RAI non è una, la RAI è una televisione pubblica per modo di dire, perché comunque allora, è una, è, ha a che fare con l'audience, con la raccolta allora, di pubblicità. Però non me lo fanno pagare. Ho capito Davide, però non può fare il paragone con la BBC, con un giornalista della BBC. Beh, non è così. Tra l'altro c'è un conformismo anche in quelle emittenti. Ieri pomeriggio mi sono dedicato a scanalare un po', a vedere un po' di canali stranieri sull'ingresso nel compound di Gheddafi. È patetico, questi giornalisti col caschetto, l'elmetto, che intervistano sti ribelli col cappello rubato nella stanza di, da letto di Gheddafi. C'è un conformismo da Fox, da CNN, da Sky, gli unici diversi, anche addirittura Al Jazeera International, la versione inglese di Al Jazeera. Vabbè, questo è un altro discorso. Pure quelli allineati, gli unici un po' diversi, i russi. Vabbè. L'unica, ecco, allora, c'è un compromesso su questa faccenda della Libia, e qui torno alla cosa che volevo dire. E davvero condivido tantissimo le cose che ho sentito da Lehner. Non lo conoscevo come parlamentare, ho letto alcune cose su. Ma su che cosa? Su Napolitano? Condivido su Napolitano, sulla Libia, sulle dimissioni di Bocchino, insomma, tutto quello che ha detto oggi lui per me è orocolato. Se dimissioni di Bocchino. Le preferenze lo voterò. Vabbè, Lenner ha conquistato una preferenza, abbiamo la borsa, poi torniamo, vediamo se riusciamo a contattare la signora Began su questa storia di Bocchino. 800 24 00 24. Lei lo voterebbe Montezemolo, Lenner? Io no, assolutamente. Mai? Come lo considera? Un fallito? Uno che ha fatto male tutto quello che ha fatto? Cioè, insisto, lui fa bene a fare le sue scelte, ma non lo vedo. Mi pare uno scimmiottamento tardivo di Silvio Berlusconi. No? Ah, scimmiottamento tardivo di Berlusconi. Sì. E borsa. Riprende la Zanzara, 800 24 00 24, con... Gattegna, tu sai chi è Gattegna, no? Parenzo, naturalmente. Gattegna, no? È il presidente dell'Unione Comunità Ebraica Italiana, che è l'avvocato Renzo Gattegna, che ha protesta ufficialmente per cioè un'agenzia per le parole di Borghezio sul fascismo, dette ieri qui alla Zanzara. Ha fatto bene. Ma Borghezio fa danni di continuo, è una cosa pazzesca. Non si ferma nemmeno sospeso, una cosa incredibile. Va bene, fra poco la signorina Began che ci spiega tutto sull'affare Bocchino. Ma dov'è? Lo so, dov'è? Ma era in traghetto, sta arrivando un attimo. Gianni da Torino, buonasera. Aspettiamo. Pronto? Gianni, dica. Sì, buonasera. Senta, io volevo parlare per quando riguarda il condono, quello fiscale, sì, che lei si ostinava a dire che insomma è un patto scellerato, però è un patto che ha fatto insomma... Ma quello sullo scudo fiscale, dice, quello, la possibilità di ritassare gli scudati, lei dice. Esatto, perché lei diceva insomma che è un patto fatto e quindi non è che si può modificare questo tipo di patto, vero? No, io dico, non è che i patti sono indissolubili, cioè, sto dicendo semplicemente che l'ipotesi di ritassare, secondo me è complicatissima dal punto di vista tecnico, di ritassare i capitali scudati, lo dico per l'ennesima volta, è un tradimento di un patto, seppur scellerato, se vogliamo definirlo scellerato, certo, che è stato fatto tra questi signori che peraltro sono anonimi e lo Stato, il quale ha detto vi tasso i capitali che rientrano del 5% e adesso non può dire no, ci abbiamo ripensato un anno e mezzo dopo, quegli stessi capitali te ritasso al 10-15%. Ma continuerebbero a rimanere anonimi questi signori ritassati? Esatto. Ma cosa c'entra? Non è questione dell'anonimato, certo, non viene messo in gioco l'anonimato, certo. La questione non è l'anonimato, sì, è la serietà. È la serietà, no. Benissimo, però io le vorrei precisare, no, qualche anno fa, nel lontano 85-86, se non mi sbaglio l'allora ministro del tesoro Ciampi, c'erano dei buoni fruttiferi postali. E che c'entra? No, le dico che c'entra, che uno che andava a comprare questi buoni ha un certo interesse. Dopo qualche anno, quelli dall'86 in poi, uscì una legge che tutti i buoni fruttiferi dall'86 in poi dovevano essere tassate al 12,50%, ma uno che aveva fatto il patto prima, un contratto, certo, che aveva fatto un contratto prima, non c'era questa, certo, norma del 12,50%, oppure il tasso, cioè, di lei interesse. Dice si possono rimettere in discussione tranquillamente anche queste cose qui. Esatto, perché ma visto, no, che sì, ho capito, ma non, io non dico che tecnicamente, può darsi pure che ci sono diverse questioni che lasciano pensare che questa roba qui proposta dal Partito Democratico sia solamente demagogia, perché poi siccome, beh, bisogna prendere i soldi da qualche parte, allora dice, certo, prendiamoli a quelli che hanno riportato i capitali in Italia. Ma che... scusa, come sono andati fuori questi capitali? Ma, credo, ma che siano stati, nero, che siano stati portati fuori nero, quello è, sta nella, vuol dire, è nelle cose, perché stiamo parlando evidentemente di un accordo fatto con delle persone che hanno portato i capitali fuori dall'Italia, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno dello scudo fiscale, no? Di che parliamo? È chiaro che queste persone, come hai definito tu ieri, Parenzo? Ma molto semplicemente sono dei ladri, non c'è altra parola, ladri, chi sì, è un ladro. Sì, d'accordo, hanno portato fuori i soldi dall'Italia. No, non trovo altri sinonimi, ladri. Vabbè, Lores da Vicenza, buonasera. Lores? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Lores da Vicenza, sì. Sì. Bentornato. Bentornato. No, Lores, lei... non Flores. Pronto? Lores, Lores. Sì, ah, sono Lores. Lores. È un po' strano, sì, però... No, è strano. No, ma aspettavano bello un maschietto, dovevano chiamarlo Loris, è nata la Lores. La Lores. Anche Lener si chiama Lener di cognome, non è un cognome usuale. Lei si chiama Lores di nome, va bene lo stesso. Esatto, sì. Allora, bentornato a lei, ma non al signor Parenzo. Non al signor Parenzo, va bene. No, ecco, no, però bentornato, si, come dire, si augura un po' a tutti, o no? No, Parenzo no. Parenzo no. E mi dispiace che sia anche padovano. È il addirittura Gallo, le dispiace Gallo, che sia padovano. La gallina padovana, sono le galline padovane che sono meravigliose e lui non è un gallo, è una gallina. È una gallina, benissimo. Da braccio forte. Parenzo, allora, l'abbraccia fortissimo. L'abbraccio però, con gioia. No, non lo voglio. Non allora, lo vuole. Guardi che un abbraccio di Parenzo non è male, eh? Ma lo dice la televisione, non mi piace. Lei mi fa, lei, Cruciani, ma Parenzo è proprio, mi stomaca, veramente. No, che io, come la stomaco, scusa. Cioè, vorrebbe vomitare, non ho capito. No, Parenzo, proprio... Mi lascia andare avanti per cortesia, se no mi fa. No, ma non si preoccupi, è una cosa anche abbastanza comune, diffusa, sicura. Parenzo, non si intrometta per cortesia. Ma ho capito, non è che deve andare via. Chiedo scusa, signore, chiedo scusa. Sì, fuori dalla linea per cortesia. Fuori dalla linea. No, va no, bene. No, allora, ma non può stare fuori dalla linea. Va bene, fuori dalla linea. Allora, stia a sentire, Cruciani, lei, io le parlo come. Ho più di 60 anni, perciò ho un po' di pratica. Ecco. Dovrebbe fare un po' di economia domestica. Io dovrei allora, fare un po' di economia domestica. Lei dice sempre, ma no, non basta, non serve tagliare i parlamentari, non serve che riducano quelle spese, non serve che riducano quelle spese. Ma veramente io non l'ho non detto questo vero qua. Mi lasci parlare che lei parla tre ore tutte le sere, invece io devo aspettare ancora sei mesi dopo. Mi lasci parlare per cortesia. Sì, però non faccio un comizio. Le donne non le fa parlare molto le donne. Allora, le donne. Io ho deciso che mi compro libero due volte alla settimana, perché di più per me è un peso. E vabbè, mi dispiace, ma che cosa vuole che faccia io? No, ma nel senso che l'euro... Poi io ho degli amici che hanno un panificio industriale, servono i supermercati, allora? Quelli grossi, no? In questo periodo io le assicuro che le famiglie che compravano 4 pezzi di pane adesso ne comprano 3. Devono comprare i libri, i grembiulini, le cartelle, tutte quelle cose. Ecco. Quando vedono che rimane lì mezzo tozzo di pane, il giorno dopo dicono ne eliminiamo uno. Così si fa. Economia domestica picciola. Meraviglioso. No, ma Lores, guardi che siamo sul risparmio siamo d'accordo tutti. Non capisco dove vuole arrivare con questo ragionamento, però. Perché lei dice che questi papponi che sono dei papponi veri e propri, veramente. Papponi, sì. Poi mi lascia dire una cosina che sì, io dica. Torno indietro con la mente, no? Sì. Con i miei ricordi. Parliamo dell'87-88 quando Cicciolina è stata votata. Ma che c'entra Cicciolina? No, parliamo di papponi. Allora, io ero ancora molto ingenua, ero rimasta al socialismo di però allora lei deve è un intervento di grande attualità. Ma poi la lascio, sto parlando ho capito, ma lei sta delirando. Ma lei sta delirando, scusi, signora Lores. se... parlare. Ma lei sta delirando, è diversa, non sta parlando, sta delirando. Ma questo qui non è il numero dell'ospedale, signore, la Zanzara, una televisione radiofonica. Parenzo, stia fuori per cortesia. No, ma sto fuori dove? Stia fuori, per cortesia, la prego. No, ma non è il numero dell'ospedale dove è ricoverato Saia. Guardi, noi all'ospedale neanche l'accettano, perché lei non è pazzo, lei è peggio che pazzo. Perché però, scusi signora, no, se, ma però in questo caso lei ha ragione sbagliato il centralino, il 118 doveva chiamare. Allora, mia, ma stia fuori dalle palle, che è Parenzo, dai, per cortesia. Allora, no, mi scusi. Questo è l'800-24-0024, non è il 118, cara. Mi fa sentire lei? Allora, quando... No, però, ha ragione Parenzo, abbia pazienza. È una cosa incredibile, ha sbagliato il numero di telefono, poco male. Sempre fra voi due, ma trovatevi dopo, no? Dopo dove? No, oggi non ci possiamo trovare purtroppo. Non possiamo trovarci. No, no, vabbè, andate a letto assieme stanotte, ma portate pazienza, lasciate parlare anche le persone. Ma noi le facciamo... prego, prego, allora noi, Dario, va bene noi tutti, le facciamo prego. Parlare, però dipende da dove uno chiama, signora Lore. Mi lasci parlare un attimo e dopo io la saluto cordialmente. Ma è un 20 allora... minuti che parlano, non stiamo capendo nulla, abbia pazienza, signora Lore, io sono ma molto... perché continua, ma se lei non segue le persone... Come ma non posso seguire nel delirio. Ma non si può seguire la follia, signora mia, non si può... Lorenzo, vai fanculo. No, no, no, signora Lore, se no. Come anche chiuso. Come lotta. Sabina Began, buonasera. Ciao. Come stai? Oh. Come stai? Madonna, sai che mi mancate tanto. Quanto tempo, quanto tempo. Sì, una vita. Quanto tempo, una vita, lo so, ma non siamo più venuti, non sono più venuto a Roma, è un casino, però ti sei dato da fare, diciamo la verità, insomma. Ecco. Anche senza di noi. Anche senza di noi, non sei rimasta, come dire, con le mani in mano, ecco. Ecco. Aiuto. Però insomma, vogliamo dirimere questa questione, signora Began, la questione fondamentale è questa. Allora, innanzitutto chiariamo la natura del problema. Tra lei e l'onorevole Bocchino, sì. A parte io sono gelosissimo, devo confessare questa cosa, sì. Parenzo, la posso confessare? Io sono gelosissimo di questa cosa qua. Cioè, appena ho visto quelle foto, un po' sono, sì. Tu hai visto tutte le foto? Ho visto anche le foto di chi, quelle nuove, eccetera. Però... io ho visto delle foto meravigliose. Sì, delle foto meravigliose di che tipo, scusa? Foto della signora Began al mare. Sì, vabbè, vabbè, ma solito se andate a guardare le foto della signora Began in topless, vabbè. No, vabbè. Se andate a guardare quella. Guarda, che ci pensi subito a quello. No, lui. Tremendo. È lui, Parenzo, che ha pensato subito a quello. Lui. La cosa pazzesca. E subito mi ha chiamato, ma hai visto quelle foto? No, hai visto quelle foto lì? Scusa, ma noi l'abbiamo vista da mezzo metro. Sì, per carità, sì. Poi non è che l'abbiamo vista in topless, l'abbiamo vista a mezzo metro, vestita di tutto punto. Certo, con le sue cose, abbiamo visto solo il tatuaggio sul piede. Sì, quello... solo il piede, è vero. Solo il piede, solo... pure tolto il calzino, ti ricordi? E come no, solo il piede abbiamo visto. Ah, Cucciari ha tolto il calzino. No, anche tu c'eri, adesso non è che solo io, anche tu c'eri. C'era questa scritta, com'era scritta, ce la ricorda? Scusi, signora Bega. Il 29 che illumini la mia anima e cuore per sempre. Questo è un tatuaggio dove c'è scritto questo sul piede, giusto? Sì, sì. Dedicato a Berlusconi, c'era questo tatuaggio, noi quello abbiamo visto. Il signor Bocchino ha visto altro. E io sinceramente ero un po' geloso. No, il signor Bocchino non ha visto altro. Beh, almeno una... scusi. Beh, signora, eravate lì al mare insieme. Ha visto altro, cioè ha visto almeno... Ah, in senso mi ha visto di corpo. Il corpo, sì, in topless l'ha visto, almeno questo ha visto, o no? Ma no, mi stavo cambiando veramente, quindi sono girata. Ma non è che stare in topless sia un delitto, cioè non è no, che no, guarda, no, io non ho niente contro, anzi, però a me piace stare al mare comunque vestita, insomma, mi sento molto più a mio agio. Però comunque io non gli ho fatto vedere niente, perché io quando mi stavo vestendo mi sono girata. Vabbè, comunque qualcosa ha visto di più di quello che abbiamo visto noi, in particolare di quello che ho visto io, ha visto. Dunque io devo dirti la verità, David, ho avuto un pizzico, un attimino appena ho visto quelle foto, un attimino di gelosia. Non devo. Vabbè. Dai, dopo Berlusconi ci sarai tu. No, adesso due punti dopo Berlusconi, due, cruciali, dai. Ci sarai. No, come noi due, adesso noi due. Ah. Beh, detto così adesso al telefono, una cosa pazzesca. In diretta nazionale sulla radio della Confindustria, per giunta. Vabbè, allora no, però chiariamo una cosa. Sì. Siete fidanzati? Io, Bocchino? No, certo che no. Certo che no, non siete fidanzati. Vabbè, prima cosa. Un bacino. C'è stato un bacio o qualcosa del genere? No, no, assolutamente. Un bacio sulle labbra, nemmeno un bacio sulle labbra. No. Con la lingua, no. Mi ha, è stato molto generoso, in senso molto carino, mi accompagnava, mi veniva a trovare. Ci ha provato, insomma, diciamo la verità. Beh, no, non è che ci ha provato. Ci ha provato, ma non è mica un dramma, è una cosa normale. Cioè, sarebbe, non è un reato. Non è un reato, insomma, no? No, però ha corteggiato, insomma, così, con maniere molto eleganti. Ha corteggiato in maniera elegante. Come si corteggia in maniera elegante? Perché il signor Bocchino è un po' provolone, Beh, me lo dicono questo. Però... Te lo dicono, però con lei non è stato provolone. Beh, per adesso no. Per adesso no, però in che modo ci ha provato? In che modo ci ha provato? Ecco, insomma, cerchiamo di chiarire questa cosa. No, è stato carino, dolce, molto, molto disponibile, mi veniva a trovare, mi faceva un sacco di complimenti, quindi così. Mm. Lei ha avuto l'impressione che, insomma, se lei fosse le stata... Le ha regalato dei fiori. Ha fatto qualche regalo? Ha fatto le ha regalato una felpa di Generazione Italia, che ne so. Ha regalato un simbolo di Futura Libertà. Un simbolo di Fli, che ne so. No, veramente mi aveva dato un zaino. Che me lo sono messo addosso. Ho visto questo zaino che c'era scritto la sua scritta del, non so come si chiamava ancora, non mi ricordo neanche. Come si chiama? Generazione Italia? Sì. Primo zaino di Generazione Italia. Cioè, ha dato lo zaino della Generazione Italia e si è tolto subito, naturalmente. Sì, certo, l'ho detto, no, mi scusi, ho dato un signore... Cioè, capito, Berlusconi che regalo le ha fatto? Un regalo che le ha fatto Berlusconi? Un regalo che mi ha fatto Berlusconi? Uno tra tanti, mica è un reato fare regali, che le ha regalato? Non so, un gioiello, uno dei regali che le ha fatto... Guardi, il regalo più bello che mi ha dato Berlusconi è la sua fiducia verso di me. Vabbè, questo lo sappiamo, questo lo sappiamo. È vero, io davvero sono molto grata di questo, io ne vado fiera per questo. No, ma questo lo sappiamo, il rapporto... È il regalo più bello, se tu mi chiedi quale regalo più bello che mi ha fatto Berlusconi, certo. La fiducia che quindi è la fiducia. Come oggetto. Però qualche oggettino ogni tanto, perché è normale, giusto, corretto, mica è una cosa strana. Sì, ma come oggetti, come oggetti no, perché sono cose... Un braccialetto, un anellino, no? Ma cose intime che non credo che vanno dette pubblicamente. No, manco un regalo. Il regalo a un certo punto dice, oh, che bello. No, voi mi siete tanto simpatici, però queste cose qua non si dicono. Sono troppo intime. Mentre comunque lo zainetto di Bocchino. Insomma, l'ha subito regalato un altro, via. Una cosa. Però adesso lei conosce l'onorevole Lehner, signor Lehner? Eccoci qui. Ha capito, abbiamo chiarito subito una cosa: non c'è fidanzamento, non c'è stato nemmeno un bacino sulle labbra. Sì, mi sembra di capire. Il tema è un altro. Allora, il signor Lehner, non solo il signor Lehner, anche altre persone vogliono capire questa storia del viaggio verso Ravello. Allora, lei è andata a Ravello insieme al signor Bocchino con la macchina di scorta, giusto? Sì, ma dov'è il problema? Ma Bocchino ha la scorta? Come? Bocchino, evidentemente, io non lo so, ha la scorta Bocchino, sì. Evidentemente. Pronto? Sì, ti sento. No, signor Bocchino ha la scorta, lei è andata con una macchina... Allora, io voglio specificare una cosa. Specificamente, io ho detto questa cosa, ho visto che l'ho detta, perché l'ho detta. L'hai detta, mi è venuta... Con la scorta. Sì, con la scorta, però io veramente vivo un altro mondo, cioè non faccio la politica, non seguo veramente... No, ma infatti mica è una cosa criminale, mica quindi, una cosa... Quindi, praticamente mi è stato chiesto, io non volevo danneggiare il signor Bocchino, veramente mi dispiace perché se poi io ho detto questa cosa qua di questa cosa qua della macchina però cioè non è che io ho detto Berlusconi di dirlo, no? No, non sapendo mi hanno chiesto se c'era la scorta, ho detto di sì. Ha detto di sì, nel senso, perché è vero, magari fosse stato un danno per lui, perché è vero comunque, perché ha viaggiato verso Ravello con la scorta. Sì, non posso dire adesso la bugia perché ormai l'ha detta, però mi dispiace di se avessi creato un danno per lui. Vabbè, ormai il danno è fatto. Se c'è stato un danno, il danno è stato fatto. Se c'è un danno, poi non so se sia un danno, perché è un danno, dice lei. No, non lo so, perché voi lo parlate, quindi non so. No, perché qualcuno dice: come mai il signor Bocchino insieme alla signora Began sono andati con la macchina di scorta fino a Ravello, giusto, Lehner? La macchina blu con la scorta. Con la macchina blu con la scorta. Cioè, come viaggiavate? Lei era con una macchina blu e poi dietro la scorta. Com'era la storia, signora Began? No, c'erano due che guidavano. Due che guidavano e voi dietro. Sì. E voi dietro. E c'era due guidavano, uno di questi era la scorta, insomma. Uno o tutte e due, adesso non lo so come. No, ma non c'era la macchina blu comunque. E che macchina era? Almeno non mi ricordo. Ma come non si ricorda? Allora, guardi che non è un non è che sta danneggiando qualcuno, cioè non cioè, ormai è una cosa che è stata detta. No, perché la signora Began, uno deve conoscerla, è una persona veramente buona. E sì, lo posso dire? Io? No, io sì, sono buona? Sì, sì. E allora, evidentemente le dà fastidio che, siccome ha detto una cosa, ha detto quello che è successo, le dà fastidio se qualcuno può essere stato danneggiato da questa cosa, giusto? Ma dov'è il problema? Ma infatti non c'è problema. Cioè la scorta è decisa da un comitato del Ministero degli Interni. Sì. E lui deve, se deve girare con la scorta, voglio dire, siccome non è un reato frequentare la signora Began, se poverino deve girare con la scorta perché è obbligato per ragioni di sicurezza, cioè lo decide il Viminale, neanche il ministro Maroni. Quindi dov'è il problema? Lener, dov'è il problema? No, allora il vero problema, ma mi sembra Parenzo, che adesso è diventato ultra governativo. Il problema invece c'è, Parenzo, ma perché no, a questo ma punto il Viminale è ora che faccia un pochino di conti e veda se è giusto sperperare personale della polizia, macchine, benzina e spese varie per dare scorta per queste regole che certamente esistono. Ma a questo punto, visto che stiamo parlando di tagli a tutto, Lener, scusami, ma non ho capito, allora chiedo ufficialmente al Viminale di prendere atto che il problema a scorte è un problema serio. Ma scusami Lener, ma se uno va a cena, perdonami, in vacanza si va anche a spasso insieme agli amici o alle amiche. Ma, non credo, ma se uno va a cena con la Rita Levi Montalcini, va bene, non solo per Italo Bocchino, è un problema generale questo, naturalmente. Ma scusami Lener, se Bocchino fosse andato a cena con la signora Rita Levi Montalcini, non ci sarebbe stato, mi sembra difficile comunque. Ma perché, questa cosa identica, c'è un problema, c'è un problema, insisto, che non riguarda solo Bocchino naturalmente, ma riguarda l'uso, secondo me, smodato, eccessivo, pletorico delle scorte, con tanto personale di polizia sottratto ai compiti istituzionali. E ve ne accorgete ora? Ve ne accorgete semplicemente perché è andato a cena con la signora, Began? Ma non è vero questo è un tema che io ho sollevato 2 anni fa. Io sono, poi dopo Napolitano ho bloccato tutto. Che scrivo articoli anche contro il mio partito, ogni volta che vedo cose storte, si informi. Scusa, un po' per favore. È colpa di Napolitano. Sì, signor Began, dire una cosa. Deferito, facciamo parlare ora. Ha pure una ragione, Parenzo. Lei invece mi pare che davanti ai propri viti non ci è andato mai. No, ci dà una ragione, perché sono uno spirito libero che se deve fare critiche le fa a chi che sia, anche a Berlusconi, anche al suo partito, anche ai suoi ministri. Fate parlare, fate parlare l'oracolo. Non ho casacca di appartenenza. Tacciatevi. Un attimo, signora Began. Allora, no, io vorrei dire solamente una cosa. Il fatto che io ho sentito quell'altro signore che ha detto che comunque uno potrebbe fare, se fossi la Rita Montalcino, nessuno avrebbe detto niente. No, no, ha detto che avrebbe fatto le stesse critiche. No, no, però io voglio dire una cosa. Cioè, io veramente ho un rispetto per il signor Bocchino, cioè mi sono comportato bene, però voglio dire che loro stessi hanno fatto la stessa cosa a Berlusconi, quando lui ha preso, ha dato a qualche ospite la sua aereo, quindi hanno fatto la stessa cosa con Berlusconi, quindi... Cioè, ma chi loro? Beh, loro più o meno, gli altri dall'altra parte che volevano giocare. Ah, quelli che criticano le cose. Quelli che criticano, quindi alla fine siamo sempre sul stesso problema. Vabbè, sì, nel senso che la signora Began dice altri hanno criticato Berlusconi per l'uso privato, tra virgolette, dell'aereo di Stato per aver portato alcune persone in Sardegna, e adesso le stesse critiche si possono fare. Sono due cose un po' diverse, però hanno qualche... È diverso anche perché Berlusconi è indagato presso la Procura di Milano per un reato, cosa che Bocchino... Ma questo adesso non c'entra adesso l'indagine. Ma questo non c'entra niente. Devi subito riportare le cose ai processi, alle cose, eccetera. Vabbè, ma non il punto non è questo. La cosa interessante è questa liaison questa intellettuale, molto intellettuale. Ma perché molto pensi che non debba essere intellettuale questa liaison? No, molto intellettuale, di amicizia, di trasporto anche mentale, io credo, tra la signora Began e il signor Bocchino. Vi mandate dei messaggini anche ogni tanto? le scrive delle belle cose, le scrive i suoi discorsi, non lo so, per capire come comunica. Sta parlando con me? Sì, come comunicate? Col signor Bocchino, con dei messaggi. Sono molto geloso io di questa cosa. Messaggi. A chi interessa questo? Scusa, non ho capito. A tutti interessa. A tutti. Anche le borse sono. Anche le borse sono in fibrillazione. Sono in fibrillazione. Sto andando in default sentimentale, ad esempio. In default sentimentale. È una cosa pazzesca. Cioè, vi mandate dei messaggini di continuo, diciamo la verità, questa è la. Sì, perché no? Le scrive delle poesie. Che fa? Scrive? Sono innamorata di te, sei bellissima, sei straordinaria. Ci no, leggo dei messaggi simpatici. Ci leggo un messaggio, sei bellissima. Non pensavo che tu fossi così. Sì, più o meno. Mi avevano descritto che eri un'altra, persona. Più o meno. È così. Sei straordinaria, sei molto bella, sei una persona intelligente, pensavo che invece ti avevano descritto come una donna stupidotta, come una che organizza le feste a Berlusconi. Qual è la cosa più bella che le ha scritto? Qual è la cosa più bella che ha scritto? Bocchino? Sì. No, non posso dire. Ma la cosa più bella? Una cosa no, una poesia, che ne so. Beh, devo dire che lui è molto poetico. È molto poetico, è molto poetico. Ma lei potrebbe innamorarsi di uno come Italo Bocchino? Beh, adesso in questo momento non ci sto pensando, cioè adesso in questo momento veramente a un uomo, di innamorarmi di un uomo non ci penso, però insomma devo dire Bocchino è molto affascinante, è molto simpatico, più o meno lo sa fare con le donne. Ci sa fare, in che senso? Ci sa fare uno che ci. Questo me l'hanno detto un sacco di gente. Beh, ci ha la mano lunga, mi hanno detto. Come la mano lunga? Come la mano lunga? Che vuol dire? Cioè, anche con lei a fa. No, la mano lunga è una scherzo, volta, che dai, scherzo. No, che scherza, no, ma qui non si può scherzare troppo. Lei lo sai, non è che quando si scherza qui si va a finire subito sulle agenzie, non è che. Ha la mano lunga addirittura. Cioè, lei è stata costretta a togliere. Stavo scherzando. No, è che scherzando, sì. Scherzando. Dicono tutti così. Ma dal punto di vista è che ma le abbracciate, non con me comunque la tutta corta. Allora, voglio fare questa specificazione. Vabbè, adesso la rettifica della signora Bega mi sembra un po' troppo adesso, francamente. Voglio rettificare. Oddio, io mi diverto troppo con voi, guarda. Scusi, anzi, però stia attenta perché a borse aperte le sue dichiarazioni potrebbero creare degli scompigli internazionali, Borse di New York ancora aperte, stia attenta perché potrebbe andare in default un paese, Allora, però io voglio chiedere ancora una cosa, signora Bega, ma dal punto di vista, avendo la mano lunga, eccetera, il signor Bocchino, dal punto di vista è affascinante, sicuramente uno che ci sa fare, come dice lei, no? Con le donne, uno che la racconta giusta, no? La racconta, affascina le parole, le cose, citazioni, forse, non lo so. Ma come uomo, lei ci trova, cioè, trova che sia una. No? C'è anche l'aspetto fisico, com'è? Affascinante da quel punto di vista, no? Non ho guardato veramente a questo aspetto. Mi piaceva molto parlare con lui, è molto. Beh, io lo trovo che è molto intelligente. Perché lei guarda. Mente. Lei guarda prima, per prima cosa la testa. A me piace molto la mente. Devo e, poi, dire. E poi il corpo. Sì. A me piace anche il corpo, devo dire, però ci sono a volte. Cioè, tra Berlusconi e Bocchino, tra Berlusconi e Bocchino, dal punto di vista fisico, chi è più affascinante? Beh, è più bello Berlusconi. È più bello di Bocchino? No, ma lasci dal punto di vista fisico, è più bello Berlusconi di Bocchino? Ah, fisicamente? Fisicamente. Ma. Qualche esitazione, Cioè. Siamo sinceri, su. No, beh, su questa cosa qua, fisicamente su Berlusconi, proprio io non commento. No, ma è più bello. No, allora io voi ci provate ogni tanto. No, però, ma stiamo dicendo cose sessuali, stiamo dicendo fisico, come uomo. Sul fisico. Sul fisico, no, non ci commento perché io non posso commentare sul fisico di un presidente del consiglio, che ho grande stima di lui. Vabbè, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Pubblicità, torniamo. Siamo qui alle 20 con la Zanzara. Volevo salutare innanzitutto Giancarlo Lehner per essere stato con noi. Grazie Lehner, a presto. Prego, buona serata. Così nel corso del suo intervento davanti al direttivo del partito in corso al Senato. Cicchitto. No. Speriamo che. So che è diventato ormai un tuo arcinemico. No, io non ho nemici, semplicemente ci siamo una volta sfidati dialetticamente, ma so. No, ma ultimamente vi siete anche incrociati, com'è che è andata? Racconta un po', racconta un po'. Lo stavo intervistando per la 7, lui stava entrando di corso, si vede verso, sì, verso Palazzo Chigi, gli ho chiesto una cosa sulla finanziaria, sulla manovra. Una cosa moderata, naturalmente. Sì. Che gli hai chiesto? Che gli hai chiesto? Sei un cretino, va benissimo. No, no, ma raccontala bene. No, non mi ricordo com'era niente. Com'era la domanda? Sì, la domanda era... Ah no, ma sul pranzo, sui costi, sì, su come mai il Senato, la lista del Senato. No, sei andato col menù davanti là, sei andato col menù. Certo, avevo il menù stampato di Libero, però dico guardi, Cicchito, oggi Libero ha pubblicato il menù del Senato dove costa 1,20 euro la pasta con l'astice, ha qualcosa da dire? Certino, no, si è fermato per un attimo, ti ha guardato e ha detto sei proprio un cretino. Sì, no, meraviglioso, il proprio, a me piace, meraviglioso, sei proprio un cretino, bellissimo, sei andato dentro, bellissimo. Ti ha guardato per un attimo. Ha visto... Sì, no, mi ha guardato con due occhi come adesso il disputo. Perché era bellissimo. Ma non l'avete montata quella cosa là, la 7, no? È andata. No, quel pezzo è andata anche la russa, che anche lui mi ha detto: ma la smetti di rompermi i coglioni. Vabbè. Così ha detto, così. Ah, cosa da pazzo. No, ma così poi no, si è fermato e ha detto sei proprio un cretino. No, si è fermato, mi ha guardato, sei un cretino e poi è andato, fatto benissimo, vabbè, poco male, benissimo. Bene, Maria Teresa da Napoli, sempre in collegamento con noi, Sabina Began. Dove si trova, signora Began? Che oggi ha preso un traghetto? Sì, sono una isola bellissima. E che isola è? Ah, te lo dico in privato. Ah, ma adesso non è che gli spostamenti della signora Began sono gli spostamenti di un capo di Stato e non si possono, no, sapere. Però giustamente non lo vuole comunicare, vabbè, insomma, in un'isola. Lei va di isola in isola, da costiera a costiera. Sì, di fiore in fiore, bisogna, come una vera bisogna, bisogna, no, bisogna... Cioè, insomma, abbiamo tutti questi posti meravigliosi qua in Italia, quindi... Ah, beh, certo. Bello. Perché non... A sperimentarli, a un po' viverli. Viverli, certo, viverli, viverli. Ma quanti giorni ha fatto con Bocchino alla fine? Ma veramente lui veniva, andava, quindi un po' di volte. Un paio di weekend, che è stato? Un paio di weekend? Sì. Due, tre. Oddio, due, tre, sì. Due, tre, chissà. Sì. Chissà. Ah, continua questa liaison però, eh? Continua questa amicizia. Con Bocchino? Sì. Continua. Più meno, continua, più meno, con alti e bassi. Ma qual è il messaggio più bello che le ha scritto? Ma ancora, insisti, non te lo vuole dire. Non te lo vuole dire. Vorrei avvolgerti con una bandiera, guarda, di Flea. Dico una cosa che è veramente molto poetico. Ecco, so, scrive delle poesie pazzesche. Ecco, per esempio, me ne dica una. Ecco, una si può dire. Le sue poesie mi hanno incantate. Ah, messaggi poetici, le poesie mi hanno incantato. Una cosa, cioè, ma poesie. Sì, però io non ci credo a questa versione di Bocchino così che scrive poesie alla signora Began. Non ci credo, non ci credo. Beh, può essere. Non ci credo, su, non è ci un uomo credo di grande cultura, Bocchino. Sì, sì, però. Ma quando... Senti, mi ha detto subito che devo leggere Goethe. Mi ha chiesto se avevo letto Goethe, io ho detto di no. Ah, così ha chiesto, così, sì, ha detto. Io ho detto che praticamente poi mi ha comprato tre libri. E il primo libro che mi sono ho aperto, cioè l'ho chiuso immediatamente. Due palle così. Erano della morte, tombe, cose varie. Ha detto guarda, no, ti prego, magari sarò. Cioè, io leggo i miei libri, forse non sono così culturali come i tuoi, però verso la morte, tomba, non vogliono finire la mia mente. E che libro era? Scusi, vabbè. Guarda, non lo so, era un libro del... Di che? Cestinato subito, cestinato subito. Ma è che te cosa cestinare in Goethe? Cosa? No, dico meglio i messaggi di Bocchino che non le barzellette di Berlusconi, no, dai. Sono meglio le barzellette di Berlusconi o i messaggi di Bocchino? Beh, barzellette di Berlusconi perché almeno fanno ridere. Invece i messaggi di Bocchino sono troppo... No, beh, almeno nei libri erano un po' tristi, parlavano della tristezza. Sì, erano molto tristi questi libri. Beh, tristi, erano libri, magari, ne so, racconti, eccetera, o sì, narrativa. La vita. Allora, per me, cioè, per me in questo momento, sì, la vita è già abbastanza triste nel mondo. Cioè, insomma, io almeno, poi dipende, ci sono dei gusti, almeno i miei gusti, io cerco di nutrirmi delle cose positive che mi, sì, riescono a leggere la mia mente, la mia anima, il mio spirito. Non riesco a leggere le cose tristi, perché già il mondo è veramente, come l'ho detto, il mondo è adesso triste, perché molto triste, tutte le cose, le guerre, le disperazioni, la gente è depressa, quindi, sì, ti leggi anche un libro depresso, ti nutri. Ah no, certo, ma sorge spontanea una domanda dopo queste cose che sono uscite, una sua intervista a chi adesso e poi ancora intervista dello stesso Bocchino, che non è stato molto tenero nei suoi confronti, eh. Infatti lei insomma un po' sono contento di questa cosa. Io ho detto a Bocchino, cioè l'avevo già capito che lui deve lavorare sulla sua rabbia. Ah, così. Perché lui, eh? Secondo me, sì, lui ha molto rabbia dentro di sé. Con Berlusconi. Poi, sì. Cioè, quindi e per questo anche io ho detto non serve, perché comunque io credo, almeno io non faccio la politica, però cioè io parlo da un spettatore, da una persona normale, comune, cioè comunque io se devo guardare una persona o votare una persona, non certo una persona che è arrabbiata, perché una persona che è arrabbiata, cioè ha dato consigli cioè, a Bocchino. Oggi noi abbiamo bisogno delle persone che ci danno messaggi di pace, di felicità, di amore. Abbiamo bisogno, perché viviamo veramente in un tempo di disperazione. Scusi, signora Began, ci vorrebbe un politico che trasmette la pace. Cioè Berlusconi comunque non giudica nessuno, cioè non nessuno. È una persona, cioè lui veramente non ha contro niente nessuno. Io almeno quando sono con lui non mi dice mai niente. Cosa trasmette quando sta con lei Berlusconi? Lui mi trasmette serenità, è un serenità. Grande maestro, mi dà saggezza. Grande maestro, lui mi ha trasmesso molta saggezza nella vita. Mi dicono che in questo periodo è il suo maestro. Anzi, devo imparare ancora, perché sono ancora Mattarella, però imparerò. Meno male. È la persona giusta, sì, per insegnare il rigore, la disciplina, il rispetto. Sì, no, è vero. Scusi un attimo, signora Began, però bisogna anche dire che ha anche imparato tante cose dal punto di vista della religione, no? L'abbiamo già detto più volte. Assolutamente, ma io ho voluto essere come lui. Lui per me è uno specchio. E quindi uno specchio, cioè il fatto di, cioè io ho visto questo uomo come mio mito, quindi ho detto che cosa è questo uomo, lo voglio copiare in tutto e per tutto. Sì, che cosa fa? Crede in Dio, è un uomo saggio, e quindi io mi sono avvicinata in questa via. Scusi un attimo, però la questione, quindi ha un ruolo spirituale quasi superiore a Monsignor Fisichella, quasi, no? Ma non lo sa chi è il Monsignor Fisichella, fai delle domande, fai delle considerazioni, delle domande lo assurde. Lo sta scrivendo come, no? Voglio dire, sembra, vabbè, una sorta di cardinale, tipo allora, il Papa. No, ma il fatto, scusate, io voglio dire che voi, allora, la gente non conosce Berlusconi, quale è veramente Berlusconi, perché Berlusconi è stato dipinto dagli nemici, perché il fatto che lui è uscito sui giornali come l'hanno dipinto i nemici, dicendo che lui era così, però hanno parlato i nemici, ma noi veramente che conosciamo il presidente, noi sappiamo com'è il presidente è una persona meravigliosa, è un uomo veramente buono, io l'adoro, ma se lui fosse veramente una persona come l'hanno descritto loro, non potrei mai avere questo amore, questa bellezza. Mentre c'è un Bocchino un po' più birichino, questo lei dice, arrabbia, è un personaggio arrabbiato, birichino, no, ma secondo me lui è arrabbiato, però ha detto in questa intervista oggi, scusi signora Began, ha detto: quando ho intuito che era stata mandata la signora Began per mediare, ho capito che è alla frutta, cioè lei sarebbe stata mandata da Berlusconi per mediare, la ragazza è simpatica, se lui dice che l'ha mandata Berlusconi o no? Ma quando mai? Ma Berlusconi c'ha altro da fare che pensare. Un attimo solo, poi ha Bocchino. Detto anche: la ragazza è simpatica, forse un po' fuori dal mondo, sempre Bocchino su di lei, con tutto quello che parla di vibrazioni positive, di energia, far mediare lei è come fare ambasciatore Rambo, ma insomma è stato cattivo nei suoi confronti, Ma sì, ma io gli perdono la sua cattiveria, cioè io non posso dire niente di cattivo verso di lui, cioè io ho solamente cercato di fare qualcosa di buono. Cioè l'ha definita come una mezza matta che parla di vibrazioni positive, di cose. Se io per lui sono mezza matta, allora perché mi veniva a trovare sempre, perché ci usciva con me? Allora, cioè, ma sarà matto lui, non io. Si arrabbia un poco il signor Bocchino perché ha detto queste cose. Ma perché mi devo arrabbiare? Cioè io non mi arrabbio. L'ha definita una mezza matta in questa intervista. No, però scusi, qualcuno può aver detto che signora Began, sarà matto più lui perché esce con una matta, no? Pure questo è vero. Ma chi gliel'ha presentata a Bocchino? No, si sono incontrati in un ristorante. Per caso? Sì, sono incontrati in un ristorante e poi Bocchino ha insistito per avere il suo numero di telefono, è così? Sì. Così. Allora, intanto quattro giornalisti italiani, c'è una notizia importante, quattro giornalisti italiani sequestrati in Libia. Aia. Sono della Stampa, di Avvenire, del Corriere della Sera. Stampa, Cremonesi, Avvenire, quindi. Stampa, Avvenire, Corriere della Sera, fanno tre, forse qualcuno, qualcuna di queste, una di queste testate ha due giornalisti. Caspita. Comunque quattro giornalisti italiani sequestrati, questa notizia, lasciala l'ansia. Adesso pubblicità, torniamo subito. Bene, bene, beh, diamoci appuntamento a Roma tra qualche settimana, che ne so. È strano intervistare la signora Began, o comunque parlare, no? Intervistare è una parola un po' grossa, insomma, avere a che fare con la signora Began a distanza, no? Sì, ma sai che a me mi piace molto da vicino vederti. Siamo abituati a un, come dire, ad averla a fianco quando siamo a Roma, caro Parenzo. Ma per cui... soprattutto un microfono unico e noi tre che ci avviciniamo con... Ma adesso perché devi esagerare, come al solito? No. Non c'entra niente. Cioè, adesso... Volevo... condividere questa immagine radiofonica a chi ci ascolta da casa, che è in macchina, che già c'è a Roma un microfono unico che noi non c'è mettere. Un microfono uno, ci sono tre microfoni, diciamo, io, te e accanto alla signora Began, in particolare quando viene Lenner, quando viene Lenner sono tre microfoni, ovvio, uno per Lenner, uno per me e uno per te. Quando c'è la signora Began possiamo sparire due microfoni, ce n'è uno solo nel mezzo e bisogna avvicinarsi molto al microfono. Comunque lei mi dice non bisogna essere, non facciamo, c'è bisogno, una specie di sandwich, sì, magari, ecco. Non c'è bisogno di essere gelosi, lei dice. No, non mi devo ingelosire. Non ci dobbiamo ingelosire. Assolutamente no. Vabbè. Ma voi siete i miei amici cari. No, vabbè, ecco. Sì, gli amici cari, però lasciamoli perdere. Gli amici cari. Io avevo una ragazza. Sono affezionata. Sì, lo so, però. Io tanti anni fa, avevo 20 anni, 15 anni fa, sì, una ragazza che mi dice: no, io voglio essere solo tuo amico. Dico, mio amico. Chi se ne frega. Va bene, grazie signora Began. Amici cari, grazie, ciao. Amici cari, se una donna mi dice voglio essere tuo amico caro, l'ammazzo io. È tutto finito, amico caro. Ma no, ma è anche carino. No, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando. Il futuro tra lei e Bocchino qual è? Quello di un'amicizia, quello che vi perderete, e riuscirà ad avvicinarlo a Berlusconi? Alla fine riuscirà ad avvicinarlo a Berlusconi o no? Ma non lo so, dipende da lui. Dipende da lui. Il Berlusconi non ha combinato. Ma lei ha combinato un incontro o no? No, non l'ho fatto, però. Però? Ho parlato con il presidente. Il presidente ha detto che non ha rancore verso nessuno, chi ha fatto comunque del male a lui, che lui comunque è disposto a perdonare. Però comunque gli altri, poi alla fine. Cioè, il problema è che lui è veramente disposto a perdonare. E invece Bocchino no. No, ma non è che quello. Cioè, comunque. Ha ancora rabbia. Il fatto. Sì, ma lo insulta moltissimo. Come fa uno a perdonare una persona che poi alla fine la insulta continuamente? Infatti. Però invece Berlusconi, che invece è buono, lo perdona anche questo tipo di persone qui. Ma lui, guarda, veramente lui perdona tutte le persone. Ma che è un santo Berlusconi, tipo ma santo. No, ma no, perché lui dice comunque nella vita bisogna andare avanti, bisogna cercare di comunque di andare incontro alle persone per cercare di risolvere delle cose. Va bene, grazie. Ok, grazie. A presto, a te. Ciao. Allora, i giornalisti italiani che sono stati rapiti in Libia sono Elisabetta Rosaspina, Giuseppe Sarcina, entrambi del Corriere della Sera, Domenico Quirico della Stampa e un altro collega inviato di Avvenire. Questa è la notizia che è arrivata da qualche istante. Speriamo che le cose si evolvano in maniera positiva. Certo. Maria Teresa da Napoli, buonasera. Buonasera, io dica. Volevo parlare di Borghezio, ma posso dire un'altra cosa un momento? No, lei può parlare di che cosa, di quello che vuole. Io volevo dire che secondo le norme un uomo si valuta dalla donna che porta a fianco e un gentiluomo non parla mai della donna che ha portato a fianco. Io circa Borghezio, a me personalmente non mi fa ridere, mi fa girare lo stomaco e ritengo che una persona che è così inutilmente offensiva verso gli italiani e anche verso gli altri, anche Beppe Saccacci ha ignorato totalmente per sempre. Va bene. Grazie, buona serata. Prego, lei con tutta tranquillità ha detto che Borghezio va preso a calci. Andiamo a sentire il traffico, 800 24 00 24. Strade in diretta. Di nuovo buonasera, sulla 9 la Enate Chiasso il traffico è momentaneamente bloccato per materiali dispersi, fratturate e Lomazzo in entrambe le direzioni. Si rallenta per traffico intenso sull'Autosole nel tratto appenninico fra Barberino di Mugello e Roncobilaccio verso Bologna e proseguendo su questa autostrada ancora per materiali dispersi in carreggiata ci sono rallentamenti tra Rioveggio e Sasso Marconi. Passiamo ai cantieri notturni sulla 6 Torino-Savona, è chiuso da circa un quarto d'ora e rimarrà chiuso fino alle 7 di domani mattina l'allacciamento con la A33 a Sticuneo in entrambe le direzioni. Ed è tutto, ci risentiamo più tardi. La Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24. Mimmo da Bari, buonasera. Signor Mimmo. Pronto? Sì, dica. Mimmo? Simone da Prato. Ciao Cruciani. Buonasera. Oh, senti, a parte la Becca è una bella figa, ma bisognerebbe calma, rettificata il cervello, perché o ci vede o è un po' o gli va a comodo, insomma, per certa gente. Comunque, Borghezio lo paga, lo pagano a peso o a stronzata? Ma che discorsi da 5 milioni di quartiere, insomma, via. Lei, anche lei chiama dall'ospedale di Firenze, immagino, no? No, io vengo direttamente fuori dal caldo che c'è qui, da Cinesi. Il caldo. Guarda, un colpo di sole. Metta l'aria condizionata, aveva dell'acqua, perché sento che un po', no? Fatto un cannone ora, perché no, per sostenere certe stronzate bisogna essere preparati. Oh, comunque i politici è 10 anni che ci hanno preso per il culo a tutti. Beppe Grillo ha ragione su tutto. Guardate i suoi post. Sicuro. Ciao ragazzi, siete fortissimi. Grazie a lei. No, ma il caldo ha torto su quasi tutto. Invece il caldo è terrificante. Il caldo è terrificante. Maria Rosaria da Salerno. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Signor Cruciani, io mi devo lamentare moltissimo con lei, si lamenti, perché la trasmissione è diventata veramente molto, molto, molto difficile da digerire. E perché l'ascolta allora? Perché l'ascolto? Perché, per esempio, quando c'era il suo collega... Perché l'ascolta? Se lo chieda, il problema è suo, non è mio, perché allora, l'ascolta? No, senta, io ascolto quello che mi pare, però vedere appunto, una cretina come ma si interroghi, quella che ha tenuto prima per un quarto d'ora ma si interroghi, telefono, si interroghi. Senta, allora le rispondo, a me piaceva molto, ma molto di più la trasmissione, quando era un pochettino più seria di come è adesso, perché lei vuole fare il cabaret, però guardi, come cabaret non diverte assolutamente per nulla, vabbè, a sentire tutta questa gente, vabbè. Ecco, no, assolutamente, penso e non credo neanche di essere la sola a pensarla così, la trasmissione sarebbe anche una bella trasmissione, ma fatta come era prima, non come adesso, vabbè. Perché veramente, guardi, è scaduta moltissimo, moltissimo, mi dispiace, ma è scaduta moltissimo. Ehi, va bene, sì, siamo qui, basta. L'abbraccio. Grazie anche a lei. L'abbraccio forte. Grazie. Buona cena. Buona cena. Mimmo da Bari. Pronto? Signor Mimmo? Sì, sono io. Buonasera, sono Cruciani. Dica. Io anzitutto ero un grande estimatore di lei, però quando parla mi sono cadute le braccia. Vedo che lei se ne va appresso a Parenza, perché è un grillo parlante semplicemente. E io volevo dire proprio riguardo di Bocchino, che c'ha la scorta. Cioè, giustamente, come stiamo facendo tanti qui sacrifici, io sono pensionato, quindi 1.000 euro al mese, quindi non è che tiro avanti, sono orgoglioso. Però la questione è che questo... Pronto? Sì, Mimmo, non ho capito bene, lei è pensionato, fa... No, è pensionato, ho detto che sono un pensionato. Vabbè, allora? Però la questione è che questo grillo parlante di come si chiama, di il collega suo, cioè... Di Parenzo. Eccomi. Cioè, mi dispiace che di Padova è una bella città, però lui a quando pare è un comunista semplicemente. Vabbè. Che quando vuole, cioè lui sta a casa con gli altri. Stasera fa l'ironia, fa tutte le cose. Io stavo parlando proprio per dire che a me la scorta che fanno a questi qua, che addirittura che c'è uno spreco enorme di soldi pubblici, e quindi ed è giusto che venga eliminato. Sì, ma non è che lo decidiamo noi cosa deve essere eliminato e quante scorte ci sono. Abbia pazienza, fino a che punto magari questo qui non c'ha nessun incarico e quindi dovrebbe avere la scorta. Vabbè, è una cosa Mimmo, che grazie. Berlusconi sta facendo una dieta che gli ha fatto perdere 4 kg in 8 giorni, una dieta tisanoreica a base di erbe. cosa pazzesca. Buon. E infatti l'ho visto un po' tirato anche domenica allo stadio. Allo stadio, sì. Sì. Era un po' tirato. Giovanna da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io non so come si definiscono i sostenitori di Cruciani, comunque... I sostenitori? Sì, non... io mi lascio sentirvi stasera, poi con la signora Vegan è stato molto carino il tutto. Sì, vabbè, andiamo oltre. Cioè, poi tutto questo discorso, se c'è cose più importanti sicuramente, però io sono stufa di sentire sempre la gente che si piange addosso... quello pure io, la manovra del 2010, la manovra del 2011, quella del 12, dopodiché andiamo tutti a bagno, ma ci andiamo con tutti i partiti, non solo con la destra. Vabbè, poi? E poi niente, invece mi spaventa il discorso che ho sentito ieri di quelli del Movimento Sociale. Io abito a Genova. Mi spaventa perché la spaventa la riunione che deve fare Sai, adesso non esageriamo. Ma non è che mi spaventa in quanto riunione, mi spaventa che ci sia delle persone che ragionano ancora in quella maniera e che oltretutto ve lo vengono a dire anche pubblicamente. Vabbè, ma insomma, non bisogna avere paura di queste robe che sono veramente ridicole. No, ma non paura nel senso di paura, capisci cosa voglio dire? Cioè, così rimango sconcertata perché nel 2011 pensiamo che siamo ancora nostalgici. No, ma è una che ha bisogno di cure, signora, no? Probabilmente. Sì, non si preoccupi, non succederà nulla a Genova. A Genova non succederà assolutamente nulla. No, ma io non ho paura che succeda qualcosa a Genova. È il discorso che mi spaventa, che ci siano degli esseri umani che ragionino ancora così, con tutti i problemi che abbiamo tutti. Ok? Va bene, la ringrazio. Maria Teresa ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, niente, io volevo dire, a proposito dello sciopero che voleva organizzare la CGIL... Che vuole, che organizzerà la CGIL? Sì, che comunque vorrà fare questa manifestazione. Io sono molto contraria perché, le dico subito, perché innanzitutto... sono personaggi che secondo me lo fanno esclusivamente per la politica che è di sinistra, per cui questo lo sappiamo tutti, per cui trovo che è allucinante in quanto che questo governo sta tentando di fare delle cose in modo che non andiamo come la Grecia e come tutto quello che noi sappiamo nel mondo che sta succedendo. Allora? Per cui niente, vorrei dire che la CGIL sta sbagliando veramente in una maniera pazzesca. Poi vorrei dire un'altra cosa, che Berlusconi, io sono per Berlusconi, lo voterò sempre. Sì, quello si era capito. Poi? Si era capito, per cui lo volevo ancora dire di più. Che niente, che lo lasciassero lavorare, spero che finisca i 5 anni e che comunque la sinistra la deve smettere con questo Bersani che deve andare a casa. Sì, però signora Maria Teresa, non è che ci abbiamo di tutto abbiamo bisogno tranne che di comizi. La no, ringrazio. No, io non sto facendo nessun comizio, voglio semplicemente dire, vabbè, ma d'altra parte guardi, quando uno apre la televisione oggi non si fa altro che dire che bisogna andare a casa, questo governo, che allora io voglio dire veramente la mia. Lo dice l'opposizione, non è che lo dicono tutti. L'opposizione. Vabbè, ho capito, E poi niente, il signor Parenzo. Un attimo solo, perché abbiamo trovato proprio in extremis, ma rimandiamo tutto a domani naturalmente, il signor Donegani, che è deputato regionale siciliano, Miguel Donegani, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come si chiama lei, Miguel, di nome, come si chiama? Miguel Donegani. Miguel Donegani, ma di che origine è? Siciliana, normanna. No, è un nome Miguel, quella è stata una fantasia dei genitori, ma non è colpa mia. Deputato Regione Sicilia, come si mangia alla Regione Sicilia? Ma io in Sicilia si mangia bene. No, alla mensa della Regione Sicilia, signor Donegani. Ma alla mensa della Regione Sicilia, devo dire, io sono tra coloro che mangia in mensa, devo dire che si mangia bene. Si mangia bene, nonostante le polemiche che so. Cioè, com'è? È soddisfatto della mensa oppure è una roba così, ti ho 4 soldi? Ma guarda, io vorrei essere soddisfatto più che altro di come governa il governatore della regione. Quello è un altro discorso, adesso non mi allarghi il discorso. Sto dicendo, siccome c'è la polemica sul Senato e anche sulla mensa della Regione Sicilia, no? Per che i prezzi, ancora meno. Secondo lei è giusto il prezzo che si paga? Ma guardi, io su questo è un argomento a cui non mi appassiono tanto. Io penso non si appassionerà, però dica se lei no, ma noi sì. Anche lei si appassionerà, io invece mi appassiono. Io potrei benissimo fare a meno della mensa e mangiare fuori, guardi, tranquillamente. Però mangia, ho capito, perché... ma secondo lei è adeguato il prezzo o bisognerebbe aumentare i prezzi? No, secondo secondo me anche aumentando i prezzi parlamentari, guardi, onestamente le dico che ci possiamo permettere anche un pranzo più oneroso, quindi bisognerebbe aumentare i prezzi per parlamentari e diminuire su altre cose, questo sono d'accordo con lei. Comunque i prezzi della, ma lo faranno o no? Cioè si diminuiranno questi prezzi della mensa della Regione Sicilia che sono inferiori a quelli del Senato oppure no? Ma guardi, questo dipende più che altro dalla giunta di governo. Io non sono al governo, sono all'opposizione, tra l'altro sono all'opposizione anche per quanto riguarda sia la giunta di governo che il governatore Lombardo. Scusi un attimo, io penso che il governatore Lombardo e la giunta di governo potrebbero tra l'altro fare qualcosina in più per quanto riguarda i tempi della regione e avviare una politica del risparmio più coerente anche rispetto alle enunciazioni fatte, questo sì. Senta, signor Donegani, ma è vero che lei vuole istituire la provincia di Gela? No, un'altra provincia. Io non personalmente le dico questo, io sono naturalmente sono di Gela, quindi sono a favore alla provincia della di sono favorevole all'istituzione della decima provincia, che tra l'altro però detta così, mi perdoni, detta una così cosa è una cosa personale. Ci sono 5 comuni e 20.000 iscritti, diciamo, che hanno sottoscritto la proposta di iniziativa popolare, che lei ben sa che giuridicamente l'iniziativa popolare nel momento in cui... Sì, ma lasci perdere... Lasci perdere questi dettagli. Lei vuole istituire una nuova provincia, questa è la realtà. Sì, assolutamente sì, lo confermo. Lo confermo. E non si vergogna nemmeno. Ma non si vergogna. Perché non sono tra coloro che fa la politica strumentale e demagogica. Scusi, ma a che serve la provincia di Gela? A cosa serve la provincia? Una nuova provincia, pure quella di Gela, a che serve? Io vado ai matti. Lei mi spieghi a cosa non serve. Ma no, ma come cosa non serve? Scusi un attimo, signor Donegani. Lei a cosa non serve? Esponente del Partito Democratico. Lei ritiene più opportuno che Lombardo istituisca un nuovo comune in provincia di Catania? A me che me ne frega, ma sarà sbagliato pure quello. Me ne frega a me di Catania. Ma sarà sbagliato anche quello, signor Donegani, però... Perfetto, dobbiamo creare una roba in più ancora. Siccome si discute addirittura della diminuzione, se non addirittura dell'abolizione delle province... No, guardi, Lei deve avere. Voi mi avete chiamato telefonicamente. Io sto facendo un'intervista con voi. Mi avete disturbato e mi avete chiamato. Io con voi parlo molto volentieri. Scusate, non è che l'abbiamo disturbata. Parlo molto non è volentieri, che... però mi devi fare parlare. No, io la faccio parlare. Però voi fate un'informazione pubblica. No, scusi, Donegani, mi scusi un attimo. Gli sprechi in Sicilia sono lato rifiuti, lato idrico, che aggravano i costi dei siciliani. Ma certo, ma che la provincia di Gela non aggrava nessun costo per i siciliani. Ma lei come non pagherà la tassa costo sulla provincia di Gela. Ma come no? Lei ma paga si la sbaglia. Tassa sui rifiuti. E chi li paga i politici? E chi li paga il presidente della provincia e i consiglieri provinciali futuri se mai ci saranno a Gela? Lei non è informato bene. Non so informato. Guarda, non è ne parliamo bene. Domani perché abbiamo finito stasera. No, davvero abbiamo finito. Prima l'abbiamo cercato e non l'abbiamo trovata. A domani, la Zanzara 18:30. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.